raccomando, vi vedo un po' sottotono. No, ma è la mia impressione. Mi siete diventati buoni, Ma sì, l'atmosfera nuova, se il Papa Francesco siete diventati tutti buoni. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Soprogio e me, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprogio e me, e che ce passo va? Sono libero di scegliere, ce l'ho sta facoltà. Oppure vogliamo davvero ritornare ai tempi in cui la gente come me prendeva il mare. Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci. Perché di fuori sembriamo una cosa, però invece all'interno è un'altra. Basta essere ignoranti. Dobbiamo essere più comprensivi con i proci, avere un rapporto. A me il sindacato mica me l'ha detto. Ma perché non gliel'abbiamo chiesto? Voi pensate solo a scala mobile. Lo dobbiamo far mettere sull'ordine del giorno come una cosa normale. Ma perché oggi essere froci è normale? Dobbiamo essere più moderni, come i greci antichi. Per loro non solo non era un difetto, ma essere froci era una cosa da vantarsi. Ah, appunto. Appunto un par di coglioni, che ti pare che stavano nella Grecia antica? Va a sapere perché gli crea problemi sul lavoro, sai com'è, ma sarà ora di piantarla con questa ipocrisia chiamata omofobia. Soprogio e me, perché c'è da ridì? Non vedo che problema c'è, mettiamola così. Soprogio e me, perché sei meglio te? Se ne sei tanto convinto almeno spiegami perché. Io l'ho detto e lo ribadisco, che oggi i problemi emergenti o dell'emergenza sono quelli economici, che non c'è un'emergenza sull'omofobia, per esempio, semmai l'emergenza dura da migliaia di anni e quindi una settimana in più, una settimana in meno non avrebbe cambiato nulla. Secondo me è un istinto del tutto naturale. E poi basta, basta parlare di froci, non ne posso più, basta parlare di froci, non ne posso più, dichiaro ufficialmente che non ne posso più. Cioè non si può parlare in Parlamento eccetera della legge contro l'omofobia. Se uno va in giro e chiede scusi, lei sa che cos'è la legge contro l'omofobia? Io sono sicuro che il 90% delle persone non sa niente. Di Pietro. Il diritto di esistere perché sei nato come madre natura da fare. Ecco, io sono dell'idea, sono cattolico, sono fatto pure seminarista per questo. Però madre natura t'ha fatto in questo modo e campa come t'ha fatto. A me l'interessante è che non rubi, non ammazzi e non violenti. Dopodiché, che ti piace un uomo, che ti piace una donna, ti piace giovane, ti piace vecchia, ti piace nero, ti piace bianca, basta che ci stai bene tu e non dai fastidio all'altro. E qui siamo nel quindi campo, io sono l'idea della... che è questa è l'idea più generale della... dei diritti civili. Esatto. Che mi auguri che quando prima anche nel nostro paese sia riconosciuta a tutti, per così come madre natura fa. È così come la madre natura fa. Parenzo, ci sei? Sì, certo che ci sono. Dove ti trovi? Dove ti trovi? Non farmi domande, cioè sono alla 7, sto montando un pezzo per stasera. Benissimo, benissimo. Uno su 10 si dice che lo sia, tanti non lo sanno, non ne vanno sapere niente, perché hanno paura del giudizio della gente. Te lo ricordi Garbin? Garbin, quello di Sel, che ha detto mandate la Valandro, la consigliera leghista, sì, che sì, si era curato uno stupro per la Chieggia. Il Veneto. Cioè. Ha detto mandiamola dentro, no? Dentro insieme a 20 negri assatanati. Ci ha risposto ieri al telefono. Guardi che a me non ha espulso nessuno dal partito. Ma come no? No signore, perché io venerdì ho consegnato la tessera, quindi se non sono più tesserato come fanno ad espellermi? Io l'ho consegnata venerdì la tessera. Abbiamo e quella cosa, quando l'ha scritta quella cosa sulla Valandro? Che dico, ma è del 16 di giugno. Come le è venuto in mente di scrivere quella cosa sui neri? Buttiamo. Ma è stato una legge del contrappasso praticamente, in base al contrappasso, tutto lì, niente di straordinario, dai. Ma come niente di straordinario? Ti sei, cioè, volevi spedire quella signora leghista in mezzo a 20 negri assatanati? Niente di particolare, solo la legge del contrappasso? Vabbè. cercare che ho ne rotto un culo invertito. Tutto il repertorio lo conosco a menadito. Oh, proseguiamo con il Razzi Show in partenza, ormai meno uno per la Corea del Nord. Il Razzi Show, il segretario della Commissione Esteri del Senato, sapete, abruzzese doc, parla l'italiano in modo abbastanza avventuroso. E beh, ci annuncia che la Corea del Nord vuole avvicinarsi alla democrazia. Sarà ricevuto proprio da Kim Sung-yong, il dittatore. Un. Il dittatore della Corea del Nord. Diciamo, è un paese che si vuole adeguare e che vuole, diciamo, avvicinarsi alla democrazia. Siamo sempre attenti alla democrazia, alla democrazia che sta per tornare in Corea del Nord. Oh, è successa una cosa gravissima. Il senatore Esposito del Partito Democratico è stato minacciato di morte con un messaggio, una stella a 5 punte. Una stella a 5 punte. Io credo anche per le parole. Sì, per le parole, cerca di parlare a voce alta, di parlare bene, altrimenti non si capisce un cazzo, Parenzo, di quello che dici. Scusami. No. Allora, Esposito, del senatore del Partito Democratico, il quale ieri da noi ha detto che sono giuste le manganellate a chi attacca la polizia. Se la polizia viene attaccata, fa bene reagire con i manganelli che gli devono sparare? No, no, per dire, cioè, questa Marta Camposana, alla fine, se era lì, si è presa. Se le è meritate, se vuole fare la guerra allo Stato, lo Stato reagisce, ci può scappare che ti prende una manganellata. Berlusconi ha chiamato l'esercito di Silvio e dice che Forza Italia nasce a settembre. Oggi questa notizia non se l'è filata nessuno, eh? Quindi veramente io spero che con il lancio di Forza Italia che abbiamo intenzione di fare nel mese di settembre possono aggiungersi a noi tanti nuovi italiani che portino il loro entusiasmo, la loro passione e perché no anche la loro capacità. E che c'è passo fa, sono libero di scegliere, c'è la sta facoltà, oppure vogliamo ritornare. Pronto? Sì, buonasera, sono il conte Giulio Di Domenico, vorrei qualche informazione sulla Corallina. Sì, un attimo solo le passerei il reparto booking, va bene? Mi grazie, il nome? Buonasera, Giulio Di Domenico. Un attimo. Grazie. La sua chiamata è stata messa in attesa. Agenzia Emma Villas. La sua chiamata è stata messa in attesa. Agenzia Emma Villas. L'agenzia che affitta la casa di Grillo al mare. La villa a Bibona. Emma Villas, l'agenzia che affitta la casa di Grillo al mare. Emma Villas. La sua chiamata è stata messa in attesa. Però stiamo a aspettare qui, stavo alla radio in diretta. Amici miei di Emma Villas. Parenzo, mi stai sentendo? Vuoi sapere quanto ha speso Beppe per la sua casa? No, non hai capito un cazzo, vabbè. Non hai manco letto le prime pagine dei giornali. Non ho nulla. Visto niente oggi, tutto il giorno davanti alla camera. Pronto? Un'inchiesta pazzesca. Niente. La sua chiamata è stata messa in attesa. Ma quanto cazzo ci mettono a questi qua? Avranno un sacco di chiamate per Grillo. Emma Villas, l'agenzia che ci dà informazioni sulla casa Bibona di Beppe Grillo. Pare che il prezzo sia di 14.000 euro a settimana, sembra. A settimana, settimana, nello stesso momento c'è Casaleggio che ci parla della rivolta. Sì, buonasera. Buonasera. Sì, mi chiamo Giulio Di Domenico, sono il conte Giulio Di Domenico. Salve. Salve, buonasera. Salve. Vorrei mi qualche dica. Informazione sulla Corallina. Sì, mi dica tutto. Quante stanze ha? Innanzitutto. Lo dico subito, Grazie. Avete ricevuto molte telefonate? In che senso? No, molte richieste, voglio dire. No, non vorrei essere in coda, capito? Ma non ho capito a no, che cosa si riferisce. No, non vorrei essere in coda, siccome poi ho saputo che questa villa ha molta notorietà, diciamo, no? Ah, lo lo sa lei, perché non lo sa, cioè, nel senso, vabbè, lo sapete, no? Ne abbiamo. Allora, guardi, le dico che ha 8 camere da letto. Ora, aspetti che è un po' lento il sistema oggi. Sì. No, io ho letto qualcosa, ho letto qualcosa su internet, sì. Ma lei vuole informazioni sulla struttura della casa? Sì, no? Certo, sulla struttura, okay, della casa, sì, sul, perfetto, prezzo, struttura della casa. Allora, guardi, ha 8 camere da letto e 6 bagni, più un bagno di servizio. Beh, è grande, noi siamo in 10. Perfetto, va benissimo. Che periodo cercava? Beh, la fine di agosto, un po' più riservato, diciamo, come periodo. Allora, guardo la disponibilità. Sì. Senta, ma c'è della servitù, sa, noi siamo in 10. È un... No, non c'è la servitù, la casa viene affittata, è una casa privata, quindi viene affittata, sì, non c'è servitù. Non c'è servitù, eh? No. Già pronta, diciamo, alla bisogna, come si dice. Allora, è libera dal 17 al 31 agosto. Dal 17 al 31, il prezzo qual è esattamente? Sono 14.000 euro a settimana. Addirittura? E come mai così tanto? Vuol dire, abbiamo anche ville che costano di più, dipende dal, insomma, voglio dire, dal, no, tipo di villa, dalla posizione, certo, certo. Senta, è un problema, noi siamo più coppie, siamo tutti omosessuali, c'è qualche problema? Assolutamente no. No, così io lo dico sempre, così tanto per visto, non si fa discriminazione, cioè ha visto non mai neanche specificarlo, no, per carità, si può fare anche del nudismo là di fronte, eh? Beh, no, la spiaggia non c'è, già non credo che sia una spiaggia per nudisti. No, ma è così, per capire, tanto per avere un'informazione. Le voglio chiedere un'altra cosa, ma forse chiedo troppo, siccome ho saputo che la villa è di Grillo, no? Guardi, io non, ma non è so possibile, il proprietario, non sono tenuta neanche a rispondere a, no, questa domanda, per carità, però evidentemente evita certe domande, se vuole tutte le informazioni, sì, riguardo a questa villa. Ma è possibile fare una foto col proprietario, secondo lei? Senta, se questa è una presa in giro, io sto, no, lavorando. Che presa in, no, giro? No, io sto lavorando e, certo, quindi per favore non mi faccia perdere tempo. La ringrazio per aver chiamato. Se ha bisogno delle informazioni sulla villa, sono, sì, qui a disposizione a darle. Va bene. Però insomma, altri tipi di informazioni. Ma no, ma è un'informazione normale. Vorremmo fare una foto col proprietario della villa. Così non so chi sia il proprietario, quindi non posso. Non sa chi è il proprietario. Dire, no, va bene. Mi spiace. Grazie, grazie. A lei, grazie, buona serata. Siamo qui Parenzo con Lorenzo Cipriani, consigliere di Sella al comune di Bologna. Buonasera Cipriani. Buonasera. Come sta? È normale. È abbastanza bene. Voi state bene? Beh, combattiamo. Ma è normale, normale. Cosa normale? Ma è normale, una villa con 6 stanze, vado a cagare ogni ora in una stanza diversa, anche in Germania lo fanno. Ma sei, no, stanze. In Germania non è che c'hanno tutti 6 stanze. Lo shock dell'economia, ci saranno delle rivolte, cretino. Daranno l'assalto a Confindustria, ma io sto in una casa con 6 bagni, normale. Ma scusa, io poi vorrei capire, ma, no? Il guru di Grillo, parli, il guru di Grillo, il guru di Grillo parla dello shock, lo shock all'economia. Beh, intanto lo shock è quello per gli affittuari, 14.000 euro a settimana, non lo so. 14.000 a settimana, ma è evidente, ma tutto è eolico. Ma credo, però 14.000 a settimana. 14.000 euro, ma anche in Germania è così. Ma non è vero. E le case dei ricchi, gli spettacoli. Ho raccontato la crisi dell'economia. E ho capito, però 14.000 euro. Ogni giorno voglio cagare in un bagno diverso. 6 giorni su 7, 6 bagni. 6 bagni. Cretino, sei... ma cretino. Senta Cipriani, perché avete messo quella foto di una ragazza nera che si rivolge a un orango? E dice: dai, scherzavo quando ti ho chiamato Calderoli. Questa è un'offesa pesante nei confronti del signor Calderoli, Cipriano. No, ma quale offesa pesante? Non scherziamo. Questa è una vignetta che è stata pubblicata sul profilo Facebook della Milena Gabbanelli il 15 di luglio. È una vignetta satirica. Cioè, in che senso? Scusi. Fa ridere. No, Cipriani, scusi, al di là del fatto che faccia ridere o meno, devo dire la verità, a me non è che mi faccia morire da ridere. Cioè, voi ognuno si diverte con, no, ma che... certo, infatti a lei fa ridere, va benissimo. Però, scusi Cipriani, come offendere Calderoli dicendo che vale meno di un orango da un certo punto di vista? È peggio di un animale, o no? No, assolutamente. Calderoli ha delle bellissime giacche, non ci permetteremmo mai di offenderlo sotto questo punto di vista. La verità Cruciani è che in questo bellissimo paese si può dire che la cacca è cioccolata e che il razzismo è uguale alla satira sul razzismo, questa è la verità, per cui ci si può scandalizzare se la Milena Gabanelli e noi pubblichiamo una foto per dire ridiamoci su perché una risata li seppellirà, seppellirà i razzisti, seppellirà gli ignoranti, seppellirà i retrogradi, e si può dire che questa cosa qui è paragonabile al vicepresidente del Senato che dice di un ministro della Repubblica che è un razzista. Io non ho paragonato nulla, Cipriani, io dico solo una cosa. Che questa è una cosa razzista. No, sì, non ho detto che è una cosa razzista, ho detto che è un attacco pesante nei confronti di Calderoli, non è solamente la satira, non è la battuta, cioè quando lei paragona sostanzialmente Calderoli a una scimmia o peggio di una scimmia, perché c'è questa ragazza che guarda un cucciolo di orango e dice dai scherzavo quando ti ho chiamato Calderoli, cioè c'è qualcosa di offensivo in questo o no? Ma nei confronti chi è che ride? Parenzo, che ridi? È stupenda quella battuta, divertente. Ma scusi, la Gabanelli che c'entra? Cipriani, che c'entra la Gabanelli? La Gabanelli ha pubblicato questa stessa vignetta tipo una settimana fa e nessuno ha detto nulla. C'è la Gabanelli stessa, lei proprio, certo, sul suo profilo? Sul profilo Facebook di Milena Gabanelli, 15 luglio, quando è stato il momento clou, quando voi avete fatto anche una puntata. Sì, come no. Però non è il caso di... una volta che uno ha detto una stronzata, come ha detto Calderoli, cioè paragonando, cioè dicendo che somiglia a un orango il ministro Chienghe, cioè non è meglio chiuderla qui e non insistere facendo paragone l'orango, Calderoli, eccetera, eccetera? No, voi siete andati a ricicciare questa cosa, è successo un casino lì al Comune a Bologna. Sì, ma guardi che però il casino l'ha tirato fuori la Lega Nord, perché lei in Comune a Bologna non c'è stato mai, però saprebbe altrimenti che questa cosa qui è stata appesa alla porta di un ufficio dove non passa nessuno, ma proprio nessuno, quindi non è che le uno informazioni poi volano, lo sa, non è che c'è solo un ufficio. Sì, volano se le vuole fare uscire il consigliere comunale Manes Bernardini della Lega Nord, che loro stanno messi come stanno messi e quindi hanno deciso di buttarla in caciara sapendo che dovrebbero vergognarsi di Calderoli, e invece decidono di buttarla in caciara su una foto appesa a un ufficio in un luogo non visitato dai cittadini. Cipriani, lei stringerebbe la mano a Calderoli? Farei molta fatica. No, non gliela stringerebbe la mano a una persona che è un razzista, però alla fine, visto che gliela stretta anche la ministra Kench, forse lo farei anch'io, ma le dico la verità, farei molta fatica. Si schiferebbe un po', si schiferebbe. Farei molta fatica, perché un razzista è una persona a cui... Lei l'ha visto Django, il film, l'ultimo film di Tarantino? Sa che non l'ho visto? Dovrebbe, c'è proprio una scena simile a questa. Cioè quale? Una scena in cui si devono stringere la mano con Leonardo DiCaprio, che è un razzista conclamato, e diciamo così che... Cioè a lei Calderoli fa un po' schifo, mi dica la verità, Cipriani, cioè, me la dica tutta, i sinceramente. I razzisti mi fanno schifo. E dunque a Calderoli le fa schifo. Ma razzisti mi fanno schifo, poi se Calderoli è un razzista non lo so. L'ha detto lei. Uno che dà dell'orango a una signora di colore è un razzista? Guardi, i razzisti ce ne sono tanti, dare la patente del razzista a qualcuno semplicemente perché ha dato l'orango alla Chienghe mi sembra un po', insomma. Lei quindi è una battuta razzista, è una battuta razzista. Io la rispetto, le opinioni si rispettano. No, Cipriani, è una battuta razzista perché come sa benissimo, accostare una persona a un orango ha il sapore del razzismo vecchio stile, della propaganda razzista americana. Questo non c'è dubbio. Dopodiché che lui sia un razzista o no, poi questo. Ah, ok, d'accordo. Allora mi faccia dire, allora la rettifico. Per rispondere alla sua domanda, io farei molta fatica a chi fa una battuta del genere a stringergli la mano, sì, perché appunto onestamente non lo ritengo una cosa che io farei. Gli animali tra di loro non si schifano, questo è il vero problema, gli animali tra di loro non si schifano, cioè? Quindi io faccio fatica anche ad accostare Calderoli alla figura di un animale, non lo farei, non si fanno queste cose. Addirittura c'è, cioè, peggio di un animale, non ho capito. No, gli animali tra di loro non si schifano, mentre qualcuno che dice che una persona è un orango in maniera spregiativa, onestamente secondo me schifa le altre persone, quindi io la penso così, sì, non credo, carità, di dovermi vergognare di quello che penso. Traffico, torniamo subito. La Zanzara. Le zanzare di casa mia. Secondo un signore che si chiama Luigi Amicone, direttore di Tempi, c'è il rischio di andare in galera perché se uno dice di essere contro le nozze gay. La parola detta male diventa reato, perché se io non sono d'accordo, poniamo, sui matrimoni gay, io non voglio rischiare di essere, come dire, denunciato per omofobia. Sarai tutelato da questa norma. Allora, in Francia, in Gran Bretagna, sta succedendo questo, una persecuzione della libertà di parola. Ma ragazzi che vengono messi in galera perché vanno in giro con la maglietta di Le Mani per tu, con la maglietta. Sì, è così. Occupatene ogni tanto. Di casa mia si sbronzano di me e festeggiano su. Allora, è evidente che se ci fosse una legge in cui uno sostiene sono contro il matrimonio gay, sono contro l'adozione, anche se uno dicesse è una cosa contro natura e si prevede una sanzione, io mi incatenerei di fronte al Parlamento, eccetera. È evidente che non è così. Spero che poi qualche giudice, no, Parenzo, qualche giudice nell'interpretazione della legge, uno magari dice "Oh, Afrocio per strada" e magari ti incrimina per discriminazione, eh. Vabbè, quello si è perso, chissà che cazzo sta a fa. Sì. Sì, vabbè, arrivederci. Ma che stai facendo? Non ho capito, che stai facendo? Ma chi è che si è perso? Ma cosa stai facendo? Ma invece di parlare con la gente, sei in trasmissione e aspetta un attimo, no? Ma non me ne frega niente. Stasera vai in onda, di 5 minuti, che incubo, sono arrivato, guarda, a 3:30. È un incubo. Lorenzo Cipriani, consigliere Sella, Comune di Bologna. Buonasera. Beh, però Cipriani, non giriamo intorno alla questione. Se voi mettete insieme la parola calderoli e orango dicendo che è peggio di un orango, cioè questa ragazza, la vignetta è fatta così: dai, scherzavo quando ti ho chiamato calderoli. È una presa per il culo, ma è qualcosa di più di una presa per il culo. Una sorta di... è solo una presa per il culo. No, è un razzismo al contrario. Dai, un po' di razzismo al contrario. Cioè, non razzismo al contrario, è un razzismo nei confronti di calderoli. Cioè, lo considerate alla stregua di un animale, di una bestia. Magari lei lo pensa, lo considera un animale, un... o no? Guardi, se io non credo proprio che sia così, al massimo lei lo considera un subumano, dai, lo considera un subumano, dai, diciamo la verità. Assolutamente no, assolutamente no. Penso che al massimo l'offesa potrebbe averla in questo caso presa la scimmia, non solo per questo. Questa è... perché come l'offesa la scimmia, scusi? Questa è come è costruita la vignetta. Poi dopodiché, ma di che dobbiamo parlare? È satira, è una vignetta, oltretutto non l'abbiamo mica fatta noi, è stata ripubblicata. Vabbè, la stessa cosa, l'avete questo, fatta, guardi, vostra, dai. No, le dico solo questo, la vignetta pubblicata dalla Gabbanelli ha ricevuto tipo 40.000 condivisioni, 20.000 mi piace, ma di questo dobbiamo parlare. La gente vuole ridere di calderoli, perché si ride di una persona che dà dell'orango a una signora di 50 anni? Si ride perché altrimenti che cosa bisognerebbe fargli? In Italia non vogliamo approvare neanche le leggi sull'omofobia, fidiamoci quelle sul razzismo, appunto. Cioè lei cosa farebbe a calderoli, scusi? Ma io penso che Calderoli si debba dimettere. E vabbè, d'accordo, minimo. Quello è chiaro. Ma per una cosa del genere uno deve essere incriminato, secondo lei? Deve andare sotto processo per aver detto che quella assomiglia a un orango, che la gang assomiglia a un orango? Dica la verità. Per me? Eh. Secondo me ci sono paesi in cui se uno dice una roba del genere va sotto processo, e non sono paesi Ma per una battuta, ma dai, Cipriani. Ah, quindi era una battuta? Ma sì, quella è una battuta. No, io non sono convinto che fosse una battuta, cioè ci sono ministri che si sono dovuti dimettere perché il marito si è guardato il film porno in una camera d'albergo. Qua stiamo parlando... Vabbè, quello che c'entra, un'altra cosa. È peggio questo, dai, Luciani. Ma la dimissione è una cosa, Cipriani, le dimissioni... E perché l'avete tolta allora dalla porta del vostro gruppo? Abbiamo tolta perché alla fine tutto il casino che si è scatenato ci ha fatto capire che c'avete la coda di paglia, allora meglio toglierla. C'avete un po' la coda di paglia. Se fosse stato per me io ce l'avrei incollata. Anche in faccia a calderoli magari. Questo è... No, vabbè. No, siamo contro la violenza. Cipriani, ciao. E Garbin che ha fatto? In realtà Garbin ha fatto una grande cazzata e onestamente io non lo conosco, però quella è una cosa molto, molto... Anche quella può essere una battuta. Scusi, perché la vostra è una battuta e quella di Garbin che dice di lasciare da sola la leghista insieme a 20 negri scatenati e invece è una roba diversa? Ma di che dobbiamo parlare? Ma veramente mi stai a chiedere una cosa del genere? No. Perché uno che dice speriamo che la stuprano è uguale speriamo che la stuprano, ma non la guarda una scimmia, ma di questo stiamo parlando. Cipriani, scusa un attimo, quello potrebbe anche avere fatto una battuta. Diamo in pasto la Valandro a 20 negri assatanati. No, non sono tutte uguali le battute. Comunque guarda, so che Sinistra Ecologia e Libertà ha fatto delle ha preso delle operazioni nei confronti di questo nostro rappresentante, che si assumerà responsabilità di quello che ha fatto. Per quanto mi riguarda è una cosa grave. Vabbè, anche un po' stupida, perché ci sono battute e battute, abbiamo capito che ci sono, magari quello là veramente ha fatto una battuta, no? Sì. I veneti sono un po' più, no, un po' più creativi, no, da questo ragione, scusa, ma secondo lei Crozza poteva farla una battuta come questa? Crozza fa il comico, dai, Crozza fa il comico. E noi abbiamo pubblicato una cosa fatta da un comico, perché è una cosa fatta da una persona che fa quello nella vita, come Quark, come pubblicano le varie vignette. Cipriani, poi mi deve far capire. Adesso è un problema pubblicare satira politica, tra l'altro c'è qualcosa di violento in quella vignetta. No, quello no, però la violenza, come lei sa, è anche quando ti dico brutto animale di merda, non c'è niente di violento, però la frase è violenta. Certo, questa è una frase violenta, secondo me la vignetta non è una cosa violenta. Scusi Cipriani, poi lei, scusi, a tutti tranne che l'accento bolognese, che c'è sta a fare come consigliere comunale a Bologna? Mi sono trasferito qua nel 98 e sono crociaro io. Lo sento. Ciao, presto. Ciao, presto. Ciao, giornale, ciao, radio. Ciao. Giornale radio. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai, ai, mi ha beccato, ai, ai, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peso è. Allora, qui lo dico in maniera chiara, netta, decisa. C'è un uomo che secondo me ha due coglioni così. Si tratta di un senatore, il senatore Stefano Esposito del Partito Democratico, il quale viene minacciato di continuo, il quale oggi ha ricevuto una lettera in cui dice la tua vita non vale niente, con il simbolo della stella a cinque punte, e quelli che gliel'hanno mandata sono dei delinquenti, il quale è a favore della TAV, non pretende che tutti siano a favore della TAV, pretende semplicemente che i violenti vengano respinti come la legge prevede, cioè anche con le manganellate, e che soprattutto non si dia l'assalto ai cantieri. Questo vuole questo senatore, un po' isolato, devo dire, all'interno del suo partito, in generale isolato dall'estrema sinistra. Questo ci ha detto ieri. Se la polizia viene attaccata, fa bene a reagire con i manganelli che gli devono sparare? No, per dire, cioè questa Marta Camposana, alla fine, se era lì, si è presa. Se le meritate, se vuole fare la guerra allo Stato reagisce, ci può scappare che ti prende una manganellata. Gli abbiamo chiesto, ma non ha paura di ricevere minacce, di essere attaccato, di essere magari bastonato o peggio? Io invito tutti a farsi un giro sul mio profilo Twitter o Facebook, guardate cosa mi è arrivato, ma io non c'ho paura, sa perché non c'ho paura? Perché questi sono buoni solo dietro una maschera antigas in 100, 200 a fare il tiro al poliziotto. Quando li trovi fuori, cambiano strada. Nella vita si scelgono delle battaglie, io mi sono scelto questa e posso dirle, li aspetto, vengano. Beh, quando uno dice li aspetto, vengano, a me mi emoziono, che devi fare? Mi viene l'adrenalina addosso, mi viene una scossa, o quasi una scossa. David? Tutti con lui bisogna stare, vabbè. Tutti compatti, uniti. Vabbè, uniti con lui. Oggi sei morto, va, TG3, dai, via. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Il governo mette la fiducia sul decreto del fare. Franceschini, troppi, 800 emendamenti. Scontro con i 5 Stelle, faremo ostruzionismo. Sulla legge antiomofobia accordo in commissione, ma nel PDL c'è chi insiste, non è una priorità. Letta stringe sul finanziamento ai partiti. Annuncio su Facebook di Berlusconi, a settembre torna Forza Italia, intanto studia le strategie per la sentenza della Cassazione. Domani Letta incontra i parlamentari del PD, senza un sostegno convinto il governo non va avanti, ancora scontro sulla data del congresso. Rio, folla in strada per il Papa, in tilt le misure di sicurezza, al via la giornata della gioventù e giovedì Francesco incontrerà Pelé. Le motivazioni della sentenza della Consulta che ha dato torto alla Fiat nella vicenda con la FIOM, un vulnus alla Costituzione. Argento per Tania Cagnotto, dal trampolino da un metro ai mondiali di Barcellona, battuta di un soffio dalla fortissima rivale cinese. Non me moleste moschito. Oh, ieri dicevamo di un senatore dei 5 Stelle, Scibona, il quale dice che vabbè, gli oppositori alla TAV possono essere paragonati a Gandhi perché il sabotaggio, una puttanata, dai, una puttanata. Lo stesso Gandhi diceva appunto che nell'ambito della lotta non violenta, per uno scopo più alto, si può ricorrere al sabotaggio di materiale, ovviamente non di persone. Sabotaggio non di persone ma di materiale. Poi sono pure paraculi, capito? Si inventano il sabotaggio dei materiali e non di persona. Sentite questo Di Battista, signor Di Battista. Che cos'è adesso Di Battista? Che è? Capogruppo a... No, un deputato, semplice deputato. Principio di autodeterminazione fondamentale per la Val di Susa. Cioè, secondo Di Battista, ognuno sceglie come gli pare lì. A parte che non c'è proprio questa maggioranza schiacciante, tutt'altro, contro la TAP. Comunque, il principio dell'autodeterminazione dei popoli sia fondamentale in Val di Susa, come nelle campagne guatemalteche o in Amazzonia dove protestano i brasiliani. Cioè, lo Stato deve ascoltare i cittadini, soprattutto poi rispetto a delle opere totalmente inutili, fallimentari, che vengono costruite insieme all'Andrangheta come il TAV. Bersani è stato accolto in questo modo, con un coro in una sezione, in una festa locale del Partito Democratico, con un coro che ricorda molto i cori da stadio. Ciao. Segretario, segretario, c'è solo un segretario. Com'è, Parenzo? Un segretario, c'è solo un segretario, un segretario. Un segretario, ci abbiamo un segretario. No, c'è solo un segretario, c'è solo un segretario. Vabbè, la folla, per quanto piccola, acclamava Bersani, il quale dice che Casaleggio, qui c'ha ragione però Bersani, io ho dato sempre contro a Bersani, però in questo caso è vero, Casaleggio ci propone un suicidio di massa. E dire che nel suo partito qualcuno invece gli dà ragione, oggi addirittura un governatore della Campania, qui sono tutti impazziti, come Caldoro dice, beh sì, Casaleggio ha ragione, in autunno ci potrebbe essere una rivolta sociale. Vedrete che non ci sarà nessuna rivolta sociale in autunno, nessuna. Non vorrei che dopo un po' Casaleggio ci proponesse il suicidio di massa, perché c'ha questa, ecco, cerchiamo di essere un po' positivi, un po' positivi se vogliamo cambiare qualcosa. Bene, Giuseppe dalla provincia di Chieti, buonasera. Buonasera, grande Cruciani. Pure stasera mi ha fatto sugare Telecabul. In che senso, scusi? Ma scusi, tutte le sere metto il TG3, per quale motivo, scusi? Una curiosità. Ma sono cazzi miei, perché metto il TG3? Ma si incazza già mo si incazza. No, ma io non sono io non sono arrabbiato, il TG3 va in onda alle 19, è l'ultimo telegiornale, quasi per convenzione, quasi per abitudine lo mettiamo. Perché non mette il TG4 magari? Ah, perché da quando non c'è più Fede non lo metto più. No, non l'ha messo, io non mi ricordo che l'abbia messo. Vabbè, ma chi gliene frega a lei? Non metto il TG3. Messo, no, ma lo faccio ancora più. Lo faccio per far arrabbiare lei, metto il TG3. Allora? No, io non mi arrabbio. Allora, mo stasera, siccome già sta nervoso, un'altra curiosità. Ma io non sono nervoso per niente, guardi. No, sta molto nervoso. Quando vai in ferie, dottor Cruciani? Ma sono affari miei quando vado in ferie, venerdì comunque. Ci venerdì il più presto possibile, sì. Che sta molto nervoso. No? E poi si faccia ristrutturare il mega studio. Si faccia ristrutturare il mega studio, in che senso? Ma perché? Sì. Siccome è super intelligente, no? Sì. Sì. C'è una trasmissione scientifico-culturale, un divulgatore, sì. No? Divulgatore. Ci vuole un mega studio super apprezzato. Sì. Invece al suo aiutante, quello lì, quella specie di vomito, di vomito. Dico, comunista di merda, sì. Gli faccia ristrutturare, sì. Il cesso, perché come sembra lo sciacquone, no? Cioè il suo habitat, mentre il, sì. Suo habitat da super intelligente è un mega studio super apprezzato, no? L'habitat del vomito è un cesso. Hai capito, Parenzo? Sì, abbiamo sentito questo esperimento in vitro. Quest'uomo, questo esperimento in vitro, questo non uomo. Habitat, cioè, tanto che Radio 24, il Sole 24 vi crea gli habitat naturali. No, a lei da super intelligente, l'altro un cesso, sì. Da vomito. Sì, sì. È vero? Sì, Giuseppe, lei ha chiamato per dire questa cosa qua, che io ho bisogno di un super studio da super intelligente, mentre Parenzo ha bisogno di ristrutturare il bagno essendo un vomito, capito Parenzo? Sì, se ne può andare a quel paese tranquillamente, in 40 secondi. Vabbè. Ma scusi, dopo le ferie c'è ancora quel vomito a fianco? Sì, sicuramente ritorna. Sempre se torniamo noi, insomma. No, ma chissà se fanno tornare con questi tempi di crisi. Ha capito, costiamo anche tanti soldi. Ma certamente, no, ha fatto bene a dirlo, no? Come fa a pagare Radio 24? Cioè, il Sole 24 Ore. Sta in profondo deficit. Ma lei non ha nessun tipo di occupazione? Lei non ha un hobby, un'occupazione? No, nessuna. No, guardi. Cioè, non riesce a trovare una ragione di vita lei, non ce l'ha una ragione io di per vivere. Lei mi dà del lei, ma io non le posso dare del lei, io le do del tu, perché è un vomito, hai vomito, do del tu, no? Ma lei che mestiere fa, Giuseppe, scusi? Ma no, ma niente, perché devi... Io sto facendo una relazione, c'è una piccola impresa, sono geometra. Geometra, sì. Perché non lavora allora? Lei è laureato? Ma perché non lavora, scusi? Ma perché non si misura? Ma io sto lavorando, allora. Ho mandato via un cliente, ho detto, passa domani sera che opera con quello stronzo e con... Ma perché non si misura il cervello? Perché? Che dovrebbe fare? Intelligente. Ma perché lei dalla provincia di Chieti passa ogni tanto le serate chiamando la Zanzara per insultare i conduttori? Scusi. Io non sto insultando, sto usando lo stesso linguaggio che state usando da un po' di tempo, no? Cioè, mi sto adeguando pure io. Sì, vabbè. Giuseppe, lei non ha nulla da dire, questo è il punto. No, volevo dire che prima vai in ferie, è meglio per lei, è molto nervoso. Ma non sono nervoso per niente, guardi, sono tranquillissimo. Quando ascolto molto lei, nervoso. Quando ascolto lei mi rilasso, perché sono una sequela. Se una... da queste parti, ho lasciato già il numero, la invito a casa. Ma non ci penso nemmeno lontanamente. Ma chi viene a casa sua, Giuseppe? Perché dovrei venire a casa sua? Lei è impazzito. Ma non c'ho tempo da perdere, non c'ho tempo da perdere. Perché? Nervosire. Ma non mi fai nervosire per niente. Dobbiamo mettere i cosi. Vabbè, che dobbiamo mettere? Scusa, Parenzo, che dobbiamo mettere? Mettiamo noi sotto pancia da qua. Davide, ma con chi cazzo stai parlando? Ma con il montatore che ti sto finendo i 5 minuti di pezzo per stasera. Pierfranco da Roma, ma forse non hai capito che a noi qui non ce ne può fregare di meno di quello che stai facendo. Cioè, la gente che sta per strada, che è collegata, di quello che tu stai facendo in questo momento, che devi montare un pezzo di 5 minuti, non gliene può fregare nulla, nulla, niente. Pierfranco da Roma, ancora non l'ha capito, non c'è niente da fare. Pierfranco. Ciao Cruciani, come va? Bene, bene, dica. Bene, bene. Un paio di cose. Una è che io ho tanti amici omosessuali sul lavoro, conosco tante persone, voglio bene a tutti, li abbraccio, come dite voi, eccetera. Ma vogliamo fare un padre di famiglia Pride, un imprenditore Pride? No, ma non c'è bisogno, guardi, un pagatore. Non c'è bisogno, Pride. Io voglio, no, alla fine io non voglio più manifestazioni, Cruciani. Gente che manifesta, i Pride, i cartelli, basta. Facciamo qualcosa. Perché? Un'altra soluzione, per esempio, per i Marò, dichiariamoli gay, magari tornano a casa prima. Beh, mi pare difficile questo qua, pare molto difficile, sì, mi pare molto difficile. Dino da Modena, buonasera. Buonasera. Dica. Niente, io ho sentito la trasmissione di ieri sera e visto che è un passato da PC, PS, no, mai PD però, mai PD. Vabbè, ce ne faremo una ragione allora? No, per l'amor di Dio mi offendo se mi dicono PD. E perché si offende? Eh? Perché si offende? Perché sentire, un po' vedere la politica al giorno d'oggi, io sono di Modena perciò il PD... conosco anche il segretario del PD di Modena che ha 5 incarichi. Vabbè, allora? Quello che volevo dire è che vorrei che Esposito, visto che è così, se lo prendesse anche con i politici ladri. Con i politici ladri. Ma che c'entra? Ma che c'è? Lui sta facendo una battaglia a favore dell'alta velocità. Qual è il problema? Esposito, il disonorevole Esposito, disonorevole, non può. Colpare Venezia a chi protegge. Io sono contro la violenza, sia ben chiaro, però bisogna... Non ha detto questo, ha detto che se uno attraversa il paese o fa 300-400 chilometri fottendosene delle popolazioni locali per andare ad assaltare la polizia, è giusto che la polizia lo prenda a manganellate. Non fa una grinza, borsa. La Zanzara. No, tanto per farvi capire come ragiona qualcuno, no? Un tizio su Twitter mi scrive: il fascio radiofonico Giuseppe Cruciani elogia il Stefano Esposito del Partito Democratico. L'ultima volta che due così difesero un treno era il 1922, si andava a Roma. Mazza, che genio questo qua, oh! Un altro, siccome ho detto come si fa a verificare se una è stata palpeggiata dalla polizia, quella dei notab, mi scrive: ti auguro che nella vita qualcuno ti inchiappetti con una scopa e poi qualcun altro ti venga a dire: ma come si fa a verificare che ti hanno inchiappettato? Guarda che un palpeggiamento è violenza sessuale, non puoi parlare con questa leggerezza alla radio. Sai, se crei questo clima, come, scusa, ti si sente poco? Se crei questo clima è evidente che poi la gente si sente autorizzata. Senti, se non hai nulla da dire, non c'è bisogno di intervenire, te ne puoi pure andare, A dire no, questo è vero. No, ma se non hai nulla da dire clima, e ogni tanto ti colleghi tra una cosa e l'altra, almeno di qualcosa di intelligente. No, di ma è evidente che la battuta che hai fatto ieri su poliziotto, cosa che io ho ma detto. Ma qual è? Che battuta ho fatto? Scusa, non ho capito. No, che battuta ho fatto? È difficile da dimostrare se io ho detto semplicemente. Ma sei inventata tutto, dai, sei inventata tutto, palpeggiamento degli agenti, ma che gliene frega a tre agenti che... No, tu hai detto che eri sicura anche tu. Io ho detto sì, dopodiché ho riconosciuto però il fatto che siccome siamo in un paese civile, a fronte di una delle forze dell'ordine non sono sciolte dalla legge, non sono sopra. Ma chi ha detto legge questo? Ma chi l'ha detto? Chi l'ha allora detto? Fare delle battute grevi su questa cosa. Ma qui quale battute grevi? Che... Ma finiscila. Cristian da Milano, dai, quale battute grevi? Il grande Cofferati, saluto io. Ma chi se ne frega? Cristian da Milano, Cristian. Pronto, buonasera, caro Cofferati. Oh, signor Cofferati, buonasera. Aspetta, radio, che ti saluto. Pronto? Oh, dottore, come sta? Maestro. Ma se, sì, adesso mi dai anche del lei, a posto. Ma sei in ferie o sei ma che domani? Che in ferie? Sto a lavorare in diretta, stai attento a quello che dici, che qui succede un casino, se no, ogni volta. Andiamo. Come va? Come va? La salute è bene, il resto te lo raccomando. Il resto è... Ma che fai là? Sempre in onda? Sempre andate, guarda, troppo in televisione, poco alla radio, troppo no, in televisione. No. A me piace la radio, ci ho anche lavorato in una radio, ti puoi immaginare. Ma e avevo una promessa fatta credo 4 anni fa. A chi? A Telese, perché da 4 anni che non vai da Telese? No, che non vengo a Roma. Addirittura? In studio, no. No, in studio da Telese mai. Mai, mai. No, non so neanche come si fa. Senti, però ti posso strappare una battuta, Sergio, una battutina velocissima, guarda, 30 secondi. Tu sei sintetico. Com'è lo stato del Partito Democratico in questo momento? Come lo definiresti? In grande sofferenza. Grande sofferenza, dai. Che grande sofferenza. Diciamo che c'è una discussione molto vivace. Sì. C'è una grande articolazione di opinioni. Questo è chiaro. Ti posso dire. E c'è anche un po' di confusione. Va? Molta confusione. Ma tu chi appoggi per la segreteria? Qualcuno in particolare? No, Renzi. Vedremo, ogni cosa al suo tempo. Va bene, ciao, un abbraccio, ciao. Cristian, allora, che c'è? Cristian. Sì, buonasera. Allora? Io volevo fare una domanda all'onorevole del PD. Ma volevo chiedere, quando lo Stato invece è contro i cittadini, come dovrebbero comportarsi i cittadini? Senti, qui non è successo nulla di particolare, cioè qui ci sono delle persone, non è la grande manifestazione in cui poi ci sono state, poi i dettagli possono essere tanti, può darsi che ci sia stato un poliziotto che si è fatto sfuggire il manganello, quando uno carica non è che siamo lì a... Cioè, no, uno carica, pensato, la polizia carica manganella, punto. Ma cioè, non è che è una cosa strana, no? Cioè... Però ho pensato ieri a quello che diciate, perché il giorno prima avevo visto uno speciale sul TG1 che hanno fatto vedere come in 3-4 anni hanno devastato 7 chilometri a Palermo di costa. 7 chilometri. Ma allora, ma che costa, vuol dire questo? Che vuol dire? E lì i cittadini che si sono sentiti che lo Stato è andato contro perché hanno rovinato 7 chilometri di costa. Vabbè, allora... di lavoro. Cosa dovrebbero fare? Andare a manganellati anche loro contro lo Stato? Visto che lo Stato manganella. Quello Cristian, volevo capire. Vabbè, Cristian, come bisogna fare? Ma cosa bisogna fare per cosa, scusi? Cosa per i cittadini, quando vedono che lo Stato è contro di loro. Ma lì non c'è gente di quella valle che protesta, sono dei delinquenti che assaltano la polizia, gruppo di delinquenti, criminali delinquenti, contro lo Stato, non riconoscono lo Stato e le istituzioni, ha capito o no? Sì, però si Antonio anche, da Catania, Antonio, mi faccia sentire Antonio da Catania. Buonasera Cusciani, buonasera Parenzo, salve, tantissimo tempo ciao, però, caro, che volevo ciao chiamare, intanto buonasera a tutte e due, eccezionali tutte e due, anche se... Vabbè, poi? Vi amo e vi odio, e vi dico perché vi amo, perché comunque... Vi amo? E vi odio perché comunque tipo ieri sera esprimete ogni tanto dei pareri, come anche l'onorevole Esposito, ci vuole tanto a fare essere coraggiosi dietro una chiamata, o comunque esprimendo un Twitter. Ma che anche vuol lui dire? Che vuol dire? Ci vuole, bisogna essere coraggiosi. Oggi l'hanno minacciato, no, con la stella a 5 punte, sì, l'hanno minacciato di morte. No, siccome lei. Ma ragazzi, dai, su. Non mi interrompo. Sono d'accordissimo che hai sbagliato minacciare, ma ci mancherebbe altro. Come sono d'accordo allora sul fatto che. Sono d'accordo sul fatto che se ovviamente tu vai a fare dei danni, è ovvio che il poliziotto ti debba dare una manganellata. Però ma pure due le manganellate, no? Una, due. Anche tre. Non è tre. Facciamo anche quattro, dai, su. Però, come diceva Totò, no? Penso che comunque chi ha delle responsabilità tipo le vostre, tipo degli onorevoli che hanno spesso il microfono davanti, debbano dire comunque delle cose abbastanza sensate. Non potete creare, anche lei stesso Cruciani con le sue parole che prima ha detto Parenzo, crea un pochettino di sommossa. Ma quale sommossa? No, non crea, perché non può pensare che tutti la pensano come lei. Ma chi ha detto che tutti devono pensare come lei? Ma ci mancherebbe, il mondo è bello perché è vario, ma anch'io la amo e mi odio. Io molte volte non vi sopporto di come vi esprimete, però comunque dico quello che penso. Se uno va là a rompere i coglioni, se prende le manganellate in faccia, questo non c'è fuori di dubbio. Poi lasciamo perdere. In faccia, mette in conto che qualcosa può succedere. Le manganellate quando si danno le manganellate non è che si no, scusa, non c'è ti posso, ti ho colpito la spalla, c'è un protocollo su cui, ma informati, c'è un protocollo. Se io sono nipote di un questore, sì, e so perfettamente, mio nonno era questore di Cremona, sì, e io so perfettamente che esiste, te lo dirà qualsiasi poliziotto che può chiamare alla trasmissione. Sì, ora quando uno dà le manganellate deve stare attento a dove dà le manganellate, dai. Ma sì, esatto, che c'è il protocollo, ma certo che c'è il protocollo, c'è, dai, un, su. Ma perché non c'è un uso della violenza che è gratis e così. Ma chi l'ha detto? Manganelli, lui lì seduto per il microfono della radio, dice sì, via Manganelli, forza. Ma non ho detto questo, imbecille. Ma dai, no, ma sei di una superficialità irritante. Ma non che è superficialità? Così, sì, Manganelli, uno, due, lo facciamo tre, poi chiama un altro. Quattro, Bergamo, diamo quattro manganellate, poi chiama quell'altro. Sono Franco da Catania. Dai, 8 manganellate. E poi una è tu, via, sì, 9 manganellate, 10 manganellate. Non funziona così, non funziona. Invece, così. Insegnaci tu come funziona. Funziona che c'è un protante che dice anche il. Diccelo, dai, diccelo sì, se lo sai. Ci sono anche delle inchieste. Senti, io sono molto chiaro su alcune cose. Se tu, sì, vabbè, d'accordo, se tu sei violento, se tu hai lì in faccia il manganello, vabbè, non ma è un'espressione, così. Un modo di dire, mamma mia. Ma quale modo di dire? Ma le parole hanno un peso, se no non, perché ci incazziamo tanto con i nostri politici? Senti, se uno va lì a rompere i coglioni, a cercare di entrare in zone dove non può entrare, a saltare i cantieri, eccetera, mette in conto che la polizia reagisce. No, la polizia reagisce e dà le manganellate. Quando dai le manganellate, non è che dici "Oddio, devo colpire la scapola, non il faccino, devo ma colpire il sederino, non il piedino", no? Quando c'è la manganellata della carica, dai giù, tun tun tun tun, dai giù le botte. Ma è normale, no? Jerry da Torino, buonasera. Ma di che stiamo parlando? Dai, ragazzi, su. Jerry da Torino. Se vai lì è la guerra e se vuoi la guerra, devi aspettarti la guerra. Jerry non c'è, Paolo da Bari. Buonasera, Cruciani. Dica. Niente, volevo dire che se tutti facevano per caso come fanno quelli del Movimento 5 Stelle, l'Italia avrebbe meno problemi. Ma questo lo dice lei, questo lo dice lei. Ho restituito i soldi, non è che le ha dato. Quello è ottimo, la restituzione dei soldi del finanziamento pubblico è una cosa straordinaria, io lo dico in tutte le salse. La restituzione dei soldi del finanziamento pubblico da parte del Movimento 5 Stelle è una cosa fenomenale, fenomenale, perché invece questi altri, lo dicono chiaramente i tesorieri Sposetti e l'altro Bianconi del PDL, si vogliono tenere il bottino, vogliono tenersi il bottino, cioè i soldi nostri. Io posso avere l'opportunità di pagare o di dare a un politico, magari avere la forza di non dare anche un centesimo, cioè se per esempio darlo alla Santanchè, darlo ad Alei. Non ho capito, scusi. Paolo, non ho capito niente. Vabbè, ha attaccato il telefono. Beh, un grande ritorno alla Zanzara. Sono molto onorato perché devo dire la verità, la maggior parte delle volte in cui parla per me Parenzo, tu l'hai trattato male però in trasmissione da te, eh? L'hai trattato malissimo. Sì, sì, l'hai trattato male perché quella roba con l'aravetto è stata una battuta, una semplice battuta. Tu invece l'hai trattato male perché hai detto che aveva esagerato. Ho detto semplicemente in quel contesto lì sei il grande maestro Busio, semplicemente che lì infatti ci sono state conseguenze pesantissime. Ma quali conseguenze pesantissime? Quali conseguenze? La Rai che fa, t'ha cacciato via per questo? La commissione di vigilanza, ma non c'è nessun problema, no, ma la commissione di vigilanza ha addirittura evocato il mio nome attraverso questo signor Brunetta, credo si chiami, Brunetta sì. Vabbè, comunque, questo per dire che è con noi Aldo Busi, buonasera. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Come sta, ciao, Busi, caro. Come sta? Sto bene, mi sono appena scaricato, sono molto contento perché... Cosa vuol dire scaricato? Sì, per scaricato, nel senso che finalmente mi sono liberato momentaneamente della schizzi, sarà stata la gioia nella previsione di parlare con voi. Ah, bene o male, ti hai scaricato da che cosa che non abbiamo sentito male, scusi, dalla... Ho un problema, ho un megacolon, ho un metro e mezzo in più di intestino, quindi ho un metabolismo molto lento. Sì. Il pensiero, la gioia, il tripudio di avere un appuntamento telefonico con voi ha sortito un effetto. Ah, in quel senso, avevo capito bene, cioè ha scaricato, cioè è andato di corpo in bagno. Ma questa è una notizia molto interessante. Molto. Ma è durata molto questa cosa in bagno? Ma che no, è stato abbastanza fulminante, sono veramente alleggerito e sto molto bene psicologicamente, perché si sa che l'intestino è il nostro vero cervello, è quello che regola le nostre azioni, le nostre emozioni, le nostre reazioni. Perché Parenzo ridi? È per quello che dico stronzate, perché è una settimana che non vado di corpo, allora. Sì, adesso ho capito. Lei sta facendo un'ottima autobiografia, ha detto tutto. Scusi, Busi, però io nei giorni scorsi ho fatto mente locale, la polemica è durata anche troppo, quella là con l'aravetto, con Brunetta. Sì, basta, d'accordo. Però devo dire la verità, quando uno è... poi la volgarità, sai, si può giudicare in tanti modi, non è che... Comunque, quando uno è volgare, uno dice, vabbè, è stato volgare. Ma in quel caso io non capisco la reazione della signora Ravetto, perché davvero Busi ha detto molto meno di quello che dice in alcune occasioni, molto, molto meno. Ma avete fatto pace poi alla fine con la Ravetto, oppure non vi siete mai più sentiti, Busi? Senta, ma veramente la tematica stasera era una cosa... No. Parlare delle guerre di indipendenza o delle guerre puniche, cioè mi avete... contattato per altre cose. Assolutamente, era una parentesi. L'unità d'Italia è stata fatta, gli austriaci purtroppo sono stati scacciati, e dico purtroppo perché vediamo come stanno bene i censi Tirole, Trentino Alto Adige, certo, regioni a statuto privilegiato, chi vuole, però è perché proprio sono bravi loro, capito? Perché non basta il denaro, il privilegio. Ma no, siccome lei ha detto vorrei fare una cena con com'è che l'ha chiamato Brunetta? Sì, però è il giro dell'oca. Allora Cruciani, la tematica era un'altra. L'omofobia, questa cosa sull'omofobia. Allora, è una stronzata questa legge sull'omofobia secondo lei, oppure è una cosa che bisogna fare seria? Non lo so, perché a questo punto dopo 35 rispetto agli altri paesi europei, addirittura sudamericani, anche per non parlare del Sudafrica, non so se sia meglio tardi che mai o meglio mai che tardi, perché intanto secondo me non passerà, perché già visto che il PD è favorevole, il PDL è contrario, ma sarebbe stato la stessa cosa se fosse stato favorevole il PDL, il PD sarebbe stato contrario. Non dimentichiamo esternazioni magari il giorno prima delle di segretari di partito che dicono no, mai al massimo, okay. Questo passa. Però scusi, Busi questo significa, mi scusi, una perdita netta del 10% degli elettori, perché gli italiani sono stanchi di perdere il loro tempo su queste diatribe superate dai paesi con una civiltà minima. Pensiamo all'Austria, che è certamente non un paese di sinistra, dove c'è però una destra liberale illuminata, dove a nessun parlamentare salterebbe mai in mente, e nemmeno in Germania ovviamente, nemmeno in Francia, di fare cose, e nemmeno in Spagna, per non parlare, predicare e di legiferare sulla sessualità fra adulti consenzienti che hanno che hanno ogni diritto di aspirare a una loro piccola mediocre felicità, piccolo borghese. Però scusi Busi, cioè il patto sociale. Sì. Però Busi, qui l'argomento è uno: serve una legge in cui uno viene sanzionato se insulta? Cioè, perché insultare un omosessuale è diverso che insultare un'altra persona? Questa è la domanda. Ma guardi, il fatto è che è la stessa questione, perché insultare qualcuno perché ha una religione diversa dalla tua, perché insultare qualcuno perché ha una pigmentazione diversa dalla tua, perché insultare un essere umano, cioè perché è d'accordo, ma perché devi essere sanzionato di più se insulti, diciamo, un omosessuale rispetto a una persona normale? Perché devi avere una gran... non sei sanzionato affatto. Non è tanto il fatto dell'offesa verbale, è il fatto è che la gente passa le vie di fatto, cioè ci sono ragazzi che vengono circondati e pestati a sangue. Ma lì ci sono le leggi, probabilmente di omosessuali repressi, perché soltanto un omosessuale represso picchia un omosessuale di braccio. Lei dice, E quindi finiscono all'ospedale contusi. Però scusi, Busi, parliamo di ragazzi di 20 anni. Ma già ci sono le leggi che puniscono queste persone. Ma senta, queste leggi ci saranno, ma a me sembra che non vengano applicate. Mi sembra che ci sia molto omertà, la paura è tanta. Sì. Io resto ammirato quelle rarissime volte che vedo due uomini che si scambiano, che ne so, un gesto di tenerezza. Sì. Poi resto ammirato che si baciano, perché sono molto coraggiose, perché non è soltanto, anzi quello non è certamente un gesto di effusione intima, quello è un gesto pubblico che è un messaggio di tolleranza. Ma oggi quindi ci si può baciare tranquillamente, baciano, nessuno dice niente. Sono dei lottatori, non sono degli esibizionisti, sono dei militanti. Ho visto due anni fa in Piazza Navona un bellissimo uomo biondo sui 30 anni, che stava lì assolutamente, non so, in jeans, ma è arrivato un bellissimo uomo moro, alto come lui, sull'1,85, i due si sono abbracciati con una tale naturalezza, si sono baciati lingua in bocca e io ho applaudito, perché era la scena in assoluto più bella, più radiosa e più eroica in quel momento. Beh, ma intorno in una Roma violenta e omofobica. Non dimentichiamoci di quei tanti omosessuali ammazzati, soprattutto. Però Busi, non mi può dire pure lei che Roma è omofobica, che uno ha paura a girare per strada, ma non è vero. Roma non è omofobica, perché sarebbe come dire che Milano non lo è. Ma uno si può baciare tranquillamente per strada, non succede nulla. Busi, cosa? Dai. Ma Luciani, ma lei in che mondo vive? Ma io vivo in mezzo a un sacco di gente, frequento un sacco di persone etero, omosessuali. Io non so, perché io frequento delle persone che abbiano una mente, certamente non frequento delle persone in base all'uso che fanno non me ne importa nulla. Odio quelli che dicono di avere amici gay, nemmeno avessero dei cagnolini. Ma non ho detto questo io, non ho detto che ho amici gay. Non l'ha detto Cruciani, però io non vedo assolutamente questa nonchalance, questa disinvoltura nei confronti di gesti. Cioè, i maschi devono essere nemici, altrimenti devono darsi le pacche sulle spalle o addirittura le pacche nelle spalle. Pensa che oggi a Milano se due persone si baciano, un uomo e una donna, due donne o due uomini, è un problema, ci potrebbero essere episodi di violenza, si può scatenare, secondo me no. Perché lei i giornali allora non li legge. Ma sì, ci sono dei casi, ma ci sono dei casi. Che si intitola La Zanzara, ma lei vede il pungiglione, come dire, soltanto negli occhi altrui e non nel proprio. No, ma io dico, ci sono delle, come ci sono anche in paesi molto più evoluti del nostro dal punto di vista dei diritti civili, dove ci sono i matrimoni, eccetera, ci sono gruppi di persone, gruppi di estremisti, ma questi, sai, i fanatici ci sono dappertutto. Ma io quello dico. Gli attacchi che sferano contro di me sono tutti di un'estrema destra, omofobica, sessuofobica, disturbata. Chi è che l'attacca? Busi, chi è che l'attacca? Basta che lei vada a vedere su internet cose, ma delle infamie. Io neanche li querelo, perché tanto si danno la zappa sui piedi da loro. Il mondo sa chi sono, l'opera che ho scritto, il mio pensiero, la mia integrità. E quindi poi sa, il matto c'è dappertutto, quindi se io dovessi perseguire tutti i matti che la mattina si svegliano e dicono oggi attacchiamo Busi, chissà che qualcuno non gli faccia la pelle, no? Senta, perché Scalfarotto, lei lo conosce Scalfarotto? Mi faccia finire, Cruciani, io ho a che fare anche con gente che per decenni mi ha inviato dati lo scritti pensando che io potessi scoprire il grande scrittore che aveva il capolavoro nel cassetto. Li ho respinti tutti, mi sono creato diciamo, almeno 150 nemici di pazzi scatenati, che non hanno mai letto un romanzo, ma che ne hanno scritto 10. E quindi questi me li ritrovo tutti negli anni. Però il problema non era questo. Molti nemici, molto onore, come dice, no? Minimo di civiltà. Queste sono leggi simboliche. Sì. Non è certamente con una legge contro l'omofobia che si combatte l'omofobia, così come non sarà una legge sul femminicidio che aumenta il rispetto dovuto alle donne, sono le nostre sorelle, le nostre madri. Ho capito, ma anche lì non è ma che... Ma come fai? Ma come si fa a picchiare una donna? Ma ci sono già le leggi, non c'è bisogno di fare... Ma vede che le leggi ci sono, ma manca la cultura, manca la propedeutica al rispetto dell'altro. Non c'è nella televisione, non c'è nelle scuole. Nelle scuole non insegnano neanche... non insegnano i ragazzi a tutelarsi. Cioè lei è d'accordo con chi dice... Le malattie venere, a me è gravissimo. E che dovrebbero fare a scuola sulle malattie venere? Allora, bisogna stabilire una cosa. Che i ragazzi che hanno dei genitori presenti, responsabili, sono una strettissima minoranza della popolazione adolescenziale italiana, perché lo vediamo, non hanno tutela genitoriale, sono stati messi al mondo da persone che non sapevano quello che facevano, la maggior come parte. Lo facevano, e sono abbandonati a se stessi. Cioè, in qualsiasi città e anche nelle città stesse, lei vede branchi di ragazzi e di bambini a mezzanotte, all'una, in giro. Vabbè, cioè quello... Io, se ho un figlio mio, cioè a mezzanotte, se ha meno di 18 anni, non esce col motorino o con la bicicletta. Ma come neanche a fare... Ma non va! Come mi è conservatore, però, Busi, come mi è conservatore. Senta, comunque... o si è genitori, altrimenti si adottano dei cani. Ma nelle scuole che bisogna fare? Nelle scuole, scuole si deve insegnare dermatologia, si deve insegnare il rispetto per il proprio corpo, il rispetto per il corpo, si deve insegnare la responsabilità. Perché se un cittadino non è responsabile a 14 anni, non lo sarà neanche a 40. C'è un corso di uso del preservativo, queste cose qua. Ma di qualsiasi cosa, ma che sappia almeno che cosa è la mononucleosi, che cosa è una gonorrea, che cosa è l'HIV positivo, che cosa significa ad avere un rapporto non protetto, uno stato interessante, i rischi dell'aborto. La gonorrea. Beh sì, le malattie... No, ma ha ragione, un bel corso di educazione ha ragione su questo, Busi. Ma 14 anni non sanno nulla, non sanno nulla. È un paese questo che è impestato. Ma sì, perché non abbiamo... Che sono impestati. E poi, cioè, secondo lei molti ragazzi sono impestati? Ma senta, io frequento i reparti di microbiologia, dove vado, negli studi medici, in certi ospedali, non ho accesso a cose, come dire, secretate, ma mi danno le informazioni, anche perché so che uso farne. E che dicono? Sono gravissime, c'è una pandemia... Di creste di gallo, no? Le famose creste di gallo. Ma è una cosa da pazzi. Lo so, perché non usano niente. Ma non usano, lo usano male o non sanno che cosa è. Queste cose. Parenzo, sai che cosa? Parenzo, la gioventù. Va tutelata la gioventù. Parenzo, sai che cosa sono le creste di gallo tu? Le creste di gallo? Sì, ma i tu. I condilomi, vabbè. Ma non lo sa, Parenzo. Uno per uno col laser. Parenzo, non glieli auguro, anche se il nome gallo magari le può far salire la cresta di due spanne, non è quella roba lì. Parenzo, è un'altra cosa, sono delle malattie, come dire, malattie, sono delle, delle sono delle malattie infettive che vengono quando tu, insomma, scopi senza preservativo, diciamola tutta, dai, quando scopi senza preservativo sei leggero, sei così, hai rapporti plurimi. Oggi mi chiedeva una signora, per esempio, no? Una bellissima donna, mi diceva, ma quand'è che una donna può concedersi a un uomo appena conosciuto? Dico, non prima di 3 giorni, 4, perché è il tempo del decorso di una blenorragia, di uno scolo o gonorrea, che dir si voglia. Beh, addirittura. Sperando che sia un gentiluomo, per cui, appurando di avere uno scolo, si astenga dall'infettare questa possibile amante. Cioè, uno deve aspettare tre giorni perché, sperando che in quei tre giorni però questo non abbia fatto qualcosa. Infatti, cioè, io non dico che ci debba scattare il sentimento, l'aspettativa, no. Sono dei tempi molto molto romantici, molto poco romantici, dei tempi molto clinici, molto medici, perché lo scolo se l'hai preso dal... Ho capito benissimo, Bussi, c'è la pubblicità, torno subito. La Zanzara. Lezione di Aldo Busi ai giovani d'oggi: informatevi, altrimenti prendete le malattie venere. E dalla sua esperienza concreta, concreta. Certo, ne parlo anche in seminario sulla gioventù. Si capisce che proliferano creste di gallo, gonorree, infezioni varie. Ma adesso non facciamo, stiamo scoprendo l'acqua calda. Beh, però no? Quando uno scopre l'acqua calda è sempre importante dirlo, Busi. Ma certo, calda. Sarebbe anche ora non dirlo, ma ribadirlo. Il Vaticano ha un ruolo nefasto, perché ovviamente ha sempre impedito qualsivoglia cultura sessuale, che è anche una cultura proprio di pelle, no? Di pelle. È una cultura dermatologica, è una cultura che insegna la difesa anche per essere sani quando vai all'attacco, cioè quando ami. Sì. Quindi tutto il linguaggio è stato depistato. Tanto è vero che abbiamo questa espressione orribile che è fare sesso, allorché la più bella è chiavare, per esempio. Cioè chiavare è meglio di fare sesso. Chiavare è un'espressione aulica, bellissima. Io non farò mai sesso, magari non chiaverò neanche più, però ho chiavato molto. Ha chiavato molto? Sa, adesso vado per i 66, gli anni a specchio. Quali sono stati gli anni migliori per le chiavate? Dunque, dai 40 ai 44 sono gli anni più belli della virilità, mentre invece per me gli anni più belli della sessualità per una donna sono dai 50 agli 82. Cioè, per lei che è donna, sta dicendo? No. Io magari fossi donna, sai, il fatto è che io purtroppo non ho niente di femminile, mi sentirei molto onorato. Io proprio sono triplamente maschio, sono proprio macho, capito? Macho. Mi sforzo per dare un'apparenza... Certo. Così, ma non gli anni migliori per un uomo per 40-44, per una donna 50-82 addirittura, dai 50 agli 82. Beh, ma 80, una... a 80 anni che si ma può dai, fare, ma quella cosina lì così graziosa, questa orchidea fra le gambe è fresca a 50 anni come a 5, è la stessa cosa. Ma 80 anni pure, prego, anche 80. Senta, io ho conosciuto a Cortina d'Ampezzo, quando facevo lo sguattero lì, che era un ragazzino di 16-17 anni, sì, una signora, una contessa dal nome molto nobile, sì, che trombava tutte le sere, ne aveva 76, ed era una donna bella, calda, vogliosa, se li è fatti tutti i rampolli più belli, tutti i ragazzi 17, 18, 20 anni. Lei era una grande donna, le piaceva molto, non è che facesse la nave scuola soltanto perché era una forma di fissa, le piaceva proprio. Sai, Parenzo, che anch'io sono decisamente appassionato di questo genere ogni tanto. Ma fa benissimo, perché lei se ne intende, esattamente come lei, mi diceva l'amica mia carissima dalla quale sono ospite, sì, che dice, ma sai, questa legge sulla pedofilia, io a 16 anni amavo soltanto gli uomini di 30. E dunque? Cioè, erano loro, ero io che ero gerontofila. Non loro dei pedofili. Allora dice, io ho trombato con almeno 25 uomini di 30 anni, sì, godendomi la vita, la gioventù, questi qua oggi finirebbero in galera. Cioè lei dice che è sbagliato dire che c'è pedofilia quando c'è una volontà reciproca, diciamo, no? Io sono del parere che c'è la vittima totale, sì, che è il bambino, che è sacro, certo, che è inviolabile, che è intangibile. Sì. Questo è un crimine totale, perché questa è una vittima totale dal primo giorno di vita ai 14 anni, sì, ma dopo i 14 anni bisogna finirla. Beh, sì, basta, sì. Dopo i 14 anni vengono organizzati anche prima dalle famiglie per prostituirsi, te li mettono sotto per ricattarti, e ci sono dei ricatti. Anche oggi parlavo con un legale. Sì. Di queste cose sta diventando un business. Addirittura. Voglio ricordare che qualche giorno fa, sì, ho visto un video online sulla front page di Repubblica, sì, sì, che mi ha scombussolato, mi ha raggelato. Sì. Non ho dormito tutta notte, sì, sono stato proprio male, sì, perché questo video era un assistente sociale con una cinepresa piccola, sì, sì, che ha fatto certe strade di Napoli con bambini di 11 anni, persino un bambino di 6. Capito? È una voce fuori campo che sì, dice, poi si è sentito il botto di una pietra perché vengono prese a sassate queste assistenti, e che diceva sono le famiglie che li mandano a lavorare. Sì, sì. Allora, come si può? Cioè tutto deve essere ma questo che c'entra con la pedofilia? A tutto il resto. Che no? C'entra con la pedofilia, scusi Busi? Come cosa c'entra? No, dico, lei, esistono anche delle famiglie che mandano le persone a prostituirsi, dice lei, no? Bambini. Bambini, sì, certo, bambini. Bambini. Allora, lì i giudici dove sono? Sì. Dove sono le autorità giudiziarie? Comunque lei dice dopo 14 anni basta, smettiamola con questa storia della... Cioè, dopo i 14 anni, ma visto nel processo Berlusconi, come si fa a pensare che si tratti di prostituzione minorile? Queste sono ragazze che hanno un manager, che sì, vanno in televisione, che hanno l'autista, cioè mica fanno parte della tratta delle povere ragazze dell'est, no, che ma... sono veramente sulla strada a 13-14 anni. Non dimentichiamo, cioè, che quella non è prostituzione, milioni, dice lei, non è prostituzione quella là. Quella non è prostituzione, quello è un business organizzato. Sì. In cui la donna non è gestita. Sì, ma attenzione che è su questa parte attiva del suo stesso business, che abbia 15 anni, 16 anni, 18 o 70, sì, non mi dispiace molto, perché certamente vengono da situazioni familiari traumatiche, però io non posso farci niente, non posso fare il salvatore a ritroso dei destini dell'intera umanità. Cioè lei dice che Ruby, anche se minorenne, non si può parlare di prostituzione minorile, è una cosa. Totalmente no. Da questo punto di vista un processo farsa, un processo assurdo, sì, 50 udienze, sì, che saranno costate a noi contribuenti, non so, dica lei una cifra, 20 milioni. Sì, sì, circa, sì, 20 milioni. Ecco, capito, 20 milioni. Ci sono cose ben più importanti. Un processo sessuofobico. La morale è questa: io non voglio che Al Capone finisca a Sing Sing per un contenzioso con l'erario. Perché questo è come se fosse un contenzioso con l'erario. Ma perché secondo lei questi giudici... Ma lei senta, Cruciani, però dovrebbe anche capire un po' le metafore. Non posso spiegargliele tutte. No, ma io la stavo Al spiegando. Al Capone, che è stato... Ma Al Capone, lo so, per motivi fiscali. Ha centinaia di persone, ma non c'era verso di... Lo so, metterlo dietro le Berlusconi spalle. E la legge, mi lasci parlare, visto che tanto lei non sa un cazzo. Ma lo so, allora, lo so, ha voluto mettere dentro Al Capone per non per avere evaso. No, ma lo so benissimo. Allora, e allora faccia finta, non dica mutatis, non rilanci una cosa come se non la sapesse. Ma la rilancio lo stesso, è una tecnica a rilanciarla, cioè, ma la cosa vuole, però fa perdere tempo anche non a me, che tanto so. Vabbè, però devo rilanciarla anche per chi non sa. La devo perdere tempo anche a quelli che hanno la pazienza di ascoltarla. Ma la rilancio per chi non sa. Potrei stare qui delle ore se lei mi lasciasse parlare e la gente aumenterebbe. Con lei temo che magari scemerebbe un po'. Abbiamo ma chi l'ha detto? Ma quando mai? Vabbè, comunque c'è una cosa che le volevo chiedere, che è la cosa della Le ha detto il signor Busi, Ma me l'ha detto. Ma massacrato, ha detto che non so un cazzo, ma sapevo benissimo di Al Capone. Appena siamo usciti dal terreno del sento che serve degli altri per intervistare se stesso. Già una volta me l'ha detta questa cosa, non si ripeta. È sempre la stessa cosa. Non si ripeta. Lei non migliora, il che va benissimo perché funziona così. Con me a me comunque non piace. Sulla vicenda, ma in questa volta non ho assolutamente interrotta. No, non glielo permesso. L'ho lasciato anche parlare. No, ma io ogni tanto uso il bastone e la carota, come si usa dire. Senta, questo lo faccio con sua sorella. Io no, lo faccio anche con lo faccio anche con lei, con mia sorella lei no, non però. Non so che tipo di sorella abbia, a quale razza equina appartenga. Io no, non appartiene alla razza umana e si chiama Sofia. Allora, è una persona. Il bastone e la carota è un'espressione che con me non può permettersi. Ma no, ma bastone e carota in senso metaforico, naturalmente, vabbè, come lei sa, no? Cioè, non userei mai questo tipo di espressioni con il maestro Busi. Senta, la Boldrini che vuole che si scandalizza per qualche velo, che si toglie, per qualche tettina, per qualche culino, ma è una che si dichiara di sinistra, di selle, lei si rende conto o no? Ma io mi sono già pronunciato su questa proposta. Si è già pronunciato dove? Senta, Cruciani, io sono stanco di queste leggi qua che mi sembrano veramente fuori tempo massimo, non interessano a nessuno, la gente ha grandi problemi. Insomma, io non voglio fare il bastian contrario è il menagramo, ma è chiaro, non occorre essere né grillo né casaleggio per prevedere una cosa abbastanza tragica e drammatica. A proposito, ma lei è d'accordo con Casaleggio quando dice che... Io non sono d'accordo con Casaleggio perché intanto odio gli uomini con i capelli lunghi. Quindi qualsiasi cosa dica Casaleggio, fino a che non si taglia i capelli alla Marin, io non lo ascolterò. Non ho mai visitato una volta il loro blog. Pensi che sono in gamba, eh? C'è lei? Non ma la farebbe una relazione con Casaleggio? Le piacerebbe avere una relazione con Casaleggio? Ma perché dovrebbe avere una storia con Casaleggio? Una relazione di senso, magari... non so, un tipo di affari, non no, so, intimo, direi. Dice Parenzo, una storia. No, magari... potrebbe essere attratto anche mentalmente da questo uomo. Ma non scarichi su di me i suoi desideri riposti, Parenzo. No, ma io no, io sono, come dire, eterosessuale, ma voglio dire... Non lei è eterosessuale. Vabbè, ma uno dice sempre così, eterosessuale. Sì. No, beh, ma, sì. Ma senta, ma tutte le disgrazie... E magari ha anche dei figli da mantenere. Sì, uno è fra poco anche un altro. Uno è fra poco anche un altro. Le donne veramente, come sono di bocca buona. Io ne ho una di figlia. C'è qualcosa in contrario, Busi? No, io penso che un matrimonio senza figli tanto vale non sposarsi, perché i figli sono allegri, portano allegria. Bravo. E poi sono ponti per la comunicazione, sempre che i genitori siano un po' spiritosi e abbiano rispetto soprattutto di queste creature innocenti, allora, e non oggi... pensino che siano delle proprietà come una console o un social network. Ma noi dovremmo conoscerci, secondo me, perché abbiamo molte cose in comune, secondo me. Senta, questo veramente è il più grande insulto che abbia mai ricevuto. Perché? In vita mia. Perché? Ma perché io non voglio avere niente in comune con lei. Ma che ne sa lei? Che ne sa? Senta, Cruciani, io vorrei soltanto l'unica legge, a parte quella sulle preferenze, perché vorrei finalmente entrare in una cabina elettorale vabbè. E scegliere qualcuno che conosco, magari la faccia me lo ritrovo in Parlamento senza che venga nominato. Poi? Questa è la principale. E poi soprattutto io vorrei una legge che imponesse l'esame mensile del capello, l'esame tricologico a qualsiasi funzionario pubblico, politico, giudice, ma per fare vigile, cosa? Carabiniere, ma persino gli usceri. Ma per arrivare a che? Per arrivare sulla droga? Per vedere il tasso o meno, o la presenza o no, di una certa tossicodipendenza. Guardi, se lei, siccome ha parlato di me prima, io non ho mai preso nulla in vita mia, zero, per cui che c'entra ma questa cosa? Ma chi lo dice? Io sono contrario persino all'aspirina. E allora? Vede che abbiamo qualcosa in comune? Ma cosa c'entra? Abbiamo qualcosa in comune? Detto, vede Cruciani? Ma è lei che ha fatto un passaggio? Sa che se venisse la rivoluzione francese con la ghigliottina la prima persona sarebbe lei. Avrebbero qualche difficoltà a tagliarle la testa, perché prima dovrebbe inventarsene una. Sa, le teste, le detto teste. Questo, senta, vi saluto, state allora, bene, non vi dico, ma... La più bella di oggi però su Royal Baby è stata di Busi, questo lo devo dire. Cioè, è la più bella che ho letto da qualche parte, se è sua, davvero, sul bambino reale, chiamiamolo così, sul Royal Baby, è stata la sua. È maschio, beh, alla sua età lo ero anch'io. L'ha detta lei o no, Busi? No. Ma chi è che l'ha attribuita allora? No, alla sua età lo ero anch'io, si ricorda una vecchia battuta, noi alla vostra età eravamo già froci, voi invece siete ancora sopra i rami. No, io non l'ho detta, non sono molto contento perché è una giovane coppia, tanto questo qua non diventerà mai neanche re, perché ovviamente la monarchia britannica si dissolverà molto molto prima. Perché? Perché mi fa molto piacere per loro, come io sono molto contento quando qualcuno fa un bambino e lo adora e lo ama e capisce che la vita ha preso un'altra piega, che bisogna vivere in funzione di queste creature qua, altrimenti lasciatele dove sono. Perché il miglior regalo ancora che si possa fare a un bambino, oltre a non farlo nascere, è vivere per lui o per lei. Altrimenti fai a meno. Sì, è chiaro. Comunque, Busi, la saluto e le auguro di vincere il premio Strega. Sì, quello del 3800. Beh, sì, il 3800 può essere una bella... Preferirei lei mi augurasse della Strega il manico. Non le dico dove, ma glielo restituisco tutto. No, dove? A metà lei e metà Parenzo. No, ma io no, perché non amo il manico dietro. Ma... No, guardi, quello no. Però... Dicono tutti così la prima volta. No, però è vero, lei ha ragione, il manico no, però qualcos'altro ogni tanto sì. Ma non ci riveli queste cose? Beh, ma qualcos'altro non ho detto cosa. Ma non lo so, ma poi con quello che costano i cetrioli, ma no, ma per carità. No, no, guardi che ogni tanto servono, ogni tanto servono queste cose. Ma quelli a me io li preferisco nello yogurt greco, cioè, e con le tartine all'inglese. Ah, saluti, state bene. Saluti, saluti. Pubblicità, pubblicità. La Zanzara. Quando la zanzarina tormenta la mia noce, passa in blanco, mañana yo soy stanco, como una muchachita, baila col ritmo bueno, non le importa mucho, si no prendo sueno, non le importa mucho, si no prendo sueno. Siamo qui, 800240024, Ludovico da Milano, buonasera Ludovico. C'era Cruciani, come andiamo? Andiamo, campiamo, campiamo. Andiamo, benissimo. Ma l'ho chiamata perché stasera, suo malgrado, c'è stata una bella serata di radio, insomma. Sì. Con un Busi che ha detto delle cose estremamente importanti. Mio malgrado, mio malgrado. Sì, un altro malgrado, mi scrive, con Busi hai arrancato un po', ma devo arrancare con Busi, che devo arrancare? L'ha randellato un attimino. Stasera. Ma su cosa? Uno dice non c'hai la testa, non sei un cazzo, ma semplicemente perché volevo lei, spiegare lei questa cosa di Al Capone, dai su. Ma guardi un po'. Ma non mi interessa litigare con Busi. Lei stasera si deve essere bevuto qualche spritz di troppo. Io dico questo, lei ha esordito stasera con la storia dei Notav che partono a farsi 400 chilometri per andare a tirare i sassi, sì. E non è così. Non io è così. Sono un Notav, sì. Vado a manifestare in Val di Susa, bravo. Vado a manifestare la mia contrarietà. Bravo, non vada, certo vada. Lì, non mi lei va a manifestare, lei va a manifestare, altri certo. Vanno a tirare i sassi. No, non ci siamo, Cruciani. Non ci siamo. Dovrebbe andarci anche lei qualche volta in Val di Susa. Non ci siamo. Allora, le cose che si vedono ce le inventiamo tutti. Cruciani, ma quante Diaz vuole vedere lei? Ma che c'entra la Diaz con la Val di Susa? No, ma quante ne vuole vedere ancora? Ma stia zitto, non dica stupidaggini su lei. È lei ma che no, ha bevuto. Ma lei che dice le stupidaggini? Parenzo, rispondi a questo, dai, su. Quante Diaz ha bisogno di vedere ancora? Guardi, Parenzo, rispondi a Ludovico, guardi, dai. Quello che è avvenuto alla Diaz al G8 diciamo, sì. Non c'entra assolutamente nulla. Ah, io no, stesso non c'entra nulla. Non c'entra ma nulla, non c'entra niente, lei. È una stupidaggine. Ma sono state sequestrate migliaia di persone che erano lì solo a reclamare dei diritti. Vabbè. E sono ma state non erano macciate. A reclamare niente, ma erano a dare un assalto con dei bulloni e delle molotov. Erano a dare un assalto con bulloni e molotov. Le fa male. Le fa male. Sì. Bene, le fa male. Sì, io non bevo, figuriamoci un po'. Allora non so, stia attento a quello che dice. Ma come non si rende conto delle cazzate? Non se ne rende conto. Io no, parto da Milano per andare ad esprimere il mio dissenso. E lei vada pure, vada. Se... Ma lei può andare a... che è una persona pacifica, lei. Ma insomma... E non posso neppure reclamare, devo stare zitto. No, lei può manifestare, però se tira un sasso contro no, la polizia. Non posso fare un cazzo in questo schifo di paese. Ma chi l'ha detto? Ma ci sono ma manifestazioni dalla mattina alla sera, ma non dica stupidaggini. Ho detto bene, lei su quale. In che mondo vive lei? Sì. Ma da dove? Da quale pianeta arriva? Sì, va bene, va bene. Da quale pianeta? Sì, no, pianeta Marte. Scusi, Ludovico, scusi, ma lei che cazzo va a fare da Milano fino alla Val di Susa a protestare? Scusi, a manifestare? Che cosa diavolo va a fare? Il mio diritto no. Ma cosa va a fare? Non c'è niente da fare dalla mattina alla sera? Ha un lavoro? Ha un'occupazione? Certo, io lavoro 16 ore al giorno, sì, anni. E poi ha il tempo di andare in Val di Susa a protestare? Ma sì, dai, certo, su, ma dai, certo. Dai, ma dai. Perché quello su. Che stanno facendo in Val di Susa è una stronzata. Benissimo, allora lei protesti pacificamente, se qualcuno protesta con la violenza si risponde con i manganelli, ha capito, sì o no? Un attimo, ho 67 anni, non sono mai stato in galera, ho un'azienda con 30 persone che lavorano. Auguri. Mi sono sempre fatto un culo mostruoso. E allora? Quindi non mi venga a parlare che io vado lì senza dire. Io non ho mai portato un'arma addosso. Va bene, ma però, nessuno dice il contrario. Ma lo dico. La polizia me le ha sempre suonate. Capita quando uno va in mezzo ai violenti. No, capita. No, capita. Se qualcuno va in mezzo. Se qualcuno va in mezzo ai violenti, capita di prendere qualche manganellata. Su, dai, forza. Italia, vedi quanti sganascioni che ti rifilano poi. Sì, ma chi? Certo che tu stai con il culo al caldo a Radio 24. lavoro. Ma chi rifila gli scanassoni? Che tirino via i soldi. Ma chi? Il finanziamento pubblico a tutti quanti. Ma quale? Fate gli esodati anche voi. Ma quale finanziamento pubblico? Ludovico, impari un po' le cose. Hai trovato anche tu l'ombrellone della tua vita. Ma quale ombrellone? Stia zitto, si vergogni. Si vergogni. Hai trovato anche tu l'ombrellone della che tua fa? Vita. Che fa? Minaccia. Non fai altro che dire cazzate. Ma che fa? Minaccia dicendo. Parla uno. Sì. E esprime dei concetti. Lo taciti perché con te non ci può. Sì. È impossibile. Cioè, secondo te tutti quelli che vanno a protestare ci fanno centinaia di chilometri per andare a fare a cazzotti con i poliziotti? Mai detto questo. Mai detto questo, mai detto questo. No, no. Tu hai detto che uno che parte per farsi 300 chilometri per andare a protestare va di giù. No, a protestare, a tirare i sassi contro la polizia. Stai attento, non dire stupidaggini. No, Cruciani, scusami, se la polizia mi mena. Ma che polizia ti mena? La polizia. Io rispondo alle menate, capisci? Senti. Ma la polizia non è che mena a caso, hai capito? Non è che la polizia mena a caso, cazzo, che bravo Parenzo che sei anche tu, Senti, Ludovico, se tu hai. Se tu hai. Ludovico il Moro, senti qui. No, non è che Moro. Però. Ma un po' di esperienza. Senti, Ludovico, hai detto. Ho sentito parlare di extracomunitari ai tempi, tu non eri ancora nato, girami ancora nei coglioni di papà. Ma io ci stavo in piazza. Senti, Ludovico, non lo so, ma che questo ha bevuto un po' troppo. Ma no, non ho bevuto, Cruciale. A voglia sei bevuto. A voglia a te. Cerca di non metterti in macchina, Ludovico. No, io guarda, faccio l'autista di professione. Ecco, senti Ludovico, io ti voglio dire una cosa. Io ho semplicemente detto una cosa molto semplice. Chi va a rompere i coglioni, non quelli che pacificamente manifestano, quelli che vogliono rompere i cantieri, distruggere le reti di recinzione, attaccare la polizia, attaccare Briga, tirare i sassi, menare le mani, quelli che vogliono andare con intenti violenti in un posto, è giusto. Aspetta, io solo questo ho detto. Se poi tu vai insieme ai violenti e ti becchi le manganellate, è peggio per te che sei andato in mezzo ai violenti, hai capito o no? Cruciani, scusami, Cruciani, io qualche annetto più di te. Sì, allora? Quindi mi posso permettere anche di dirti che c'è violenza della gente, ma c'è anche la violenza dello Stato. Guarda, vabbè, ma quello è un altro discorso, dai, no, Ludovico, non è un altro discorso, che cazzo stai dicendo? Vabbè, d'accordo, allora c'è la violenza dello Stato, avanti, abbiamo scoperto che c'è la violenza dello Stato. Ma come, dai, Cruciani? Ma abbiamo scoperto, lo sappiamo, cioè, ogni tanto c'è anche la violenza dello Stato, allora? No, ogni tanto, in questo momento c'è tutti i giorni. Ma quale violenza dello Stato? C'è un gruppo di criminali, c'è un gruppo di criminali che vuole... Ma ti sei reso conto che tu non puoi votare in questo schifo di paese? Ma che non puoi votare, ma stai zitto. Ma quanto cazzo voti tu? Ma stai zitto, Ludovico, stai zitto, ma dai. Che cazzo hai votato tu l'ultima volta? Come te magari, purtroppo come certo, te. Purtroppo come te ho votato. Purtroppo come te ho votato, Ludovico. Bravo, purtroppo come me, ma perché questo è quello che ci hanno imposto. Ma quello che ci hanno imposto. Scelta io questa legge di merda. Vabbè. Adesso stai cambiando argomento, dai, stai cambiando argomento, su. È sempre lo stesso filone. Stai cambiando argomento. Parenzo, stai passando il tuo tempo insieme ad altre persone oppure ci vuoi degnare di una presenza? Sto passando il mio tempo mettendo i sottopancia nel pezzo che ho scoperto di essere di apertura. E mancano ancora. Ma perché mi devi ripetere sempre cose che non interessano a nessuno? Cioè non interessano a nessuno. Quanto manca per scaricarlo, ragazzi? Vabbè, Ludovico? Come? Vai a farti un giro per le strade di Milano. Sì. A vedere che cazzo sta succedendo. Sì. Un attimo solo. Pierpaolo da Verona. Ma stai zitto, Ludovico. Pierpaolo da Verona, dai. Buonasera. Sì. Volevo fare alcuni commenti su. Ma a parte il personaggio che ha appena chiamato, che mi sembra venuto. Non ho capito da che pianeta. Ludovico, da che pianeta ha chiamato lei? Da Milano. Da Milano. Risponda allora, a questo. Le spiego io una cosa. Quando si vuole protestare e cambiare qualcosa in Italia, non bisogna andare in giro a cazzeggiare, a distruggere e a fare i violenti. Si ha diritto di voto in Italia. La cosa più bella per esprimere il proprio parere, le proprie opinioni, si vota dei personaggi politici e dopo gli si dà l'incarico a quei personaggi lì per 4 anni. Devono fare quello che c'è sul loro programma. Se devono costruire la Val di Susa, costruiscono la Val di Susa. No, che ogni 4 ribambiti che si svegliano la mattina vanno a protestare, possono fare danneggiamenti. Ha capito, Ludovico? Ha capito o no? Il finanziamento pubblico dei partiti l'hanno fatto? Eh? Ma l'hanno No, male. Non hanno ancora fatto il finanziamento pubblico ai partiti. Continuano a rimandarlo. Perché? Votato in 100.000, cazzo, e tu che cosa mi dici? Vabbè. Vabbè, non cazzo. No, Ludovico, lei ha ragione, sono d'accordo con lei su questa cosa qua, Ludovico, sono d'accordo con te. Vanno a fare il referendum, vado a votare, esprimo il mio concetto e poi me lo metto nel culo comunque, ma di che cazzo di democrazia stiamo parlando? No, ma Ludovico, lei su questo, tu adesso ti do del tuo, hai ragione su questo, ci mettono le mani in tasca, ci prendono i soldi, dicono che ce li vogliono ridare e in realtà se li tengono, hai capito? Cioè se li tengono in tasca, come sul finanziamento pubblico, ti do ragione, però non devi andare, allora, non devi andare a 60 anni a rompere i coglioni. Devono cambiare la legge elettorale in culo a quella puttana di tua sorella, ma che cazzo hanno fatto? Ma la puttana di tua sorella chi? È un modo di dire, Cruciani, dai! Mamma mia, Parenzo? Ma che vuoi dire? Siamo alla fogna ormai. In che senso, scusa? Siamo alla... Ma senti che linguaggio, è una roba scandalosa. Vabbè, ha detto la sua. Ludovico, di qualcosa a Parenzo, adesso fra poco passo dalla parte tua. Parenzo! Contro... di qualcosa, va. Parenzo, dammi una mano. Ma gli do una mano perché avevo un linguaggio... No, non importa. Il mio linguaggio non ti piace, Parenzo? Ma no! Un linguaggio triviale. Da, ma neanche nelle osterie peggiori si sente questo linguaggio. No, per l'amor di Dio, non parlate voi di queste cose qui che c'è da mettersi a ridere, se no, Avete parlato una sera, avete parlato per un'ora e mezza di una che era andata a pisciare. In che se chi era una che è andata a pisciare? Te la ricordi? La Sara Tommasi? Sì, come no, certo. Te la ricordi, Cruciani? Certo. Cazzo, poi mi dite a me che devo moderare? E voi che cazzo moderate che cosa? Certo. Dai. Comunque guarda che siamo veramente alla frutta in questo paese. Borsa, resta lì, borsa. La Zanzara. Zanzara Party. Zanzara Party. Siamo qui, caro David. Chissà se torniamo a settembre. Chissà se torniamo. Hai finito quel cazzo? Chissà, hai finito quel cazzo di servizio della minchia che stai facendo lì alla 7? Allora, primo, sei una brutta persona. Ma che brutta persona? Quale brutta persona? Basta con queste cose. Sei passato tutto il pomeriggio al telefono a dire, non dire, stare lì, non stare lì, parlare con altre persone. Una cosa drammatica, drammatica. Comunque, oggi la voce. Quant'è l'uscita? No, allora, David. Quant'è l'uscita? Oddio Cristo. David. Che vuoi? Oggi Eric Pribke, il tuo amico Eric Pribke, passeggiava tranquillamente per Roma, sorridendo. Alla vigilia dei suoi 100 anni, hai capito? David! Siamo in onda tra due. Ma non me ne frega niente! Sono 5:30. Davide dalla provincia di Modena, dai. Davide dalla provincia di Modena. Buonasera. Buonasera, dica. Buonasera, salve. Io volevo dire una cosa. L'unica cosa che riescono a fare i governi, in particolare quelli di sinistra, in questo momento, invece di essere vicini alla gente che è più in difficoltà, è quella di legiferare per il laicismo. Quindi hanno questa pulsione verso il laicismo che mette a tacere tutte le pulsioni, poveretti, di quelli che stanno peggio. Fate qualcosa di sinistra, diceva Nanni Moretti, no? Questo sì, però Davide, non è che se uno legifera sull'omofobia o su altre cose significa che non si occupa del resto. Dai, su, ma questa è una stupidaggine. Loro vogliono arrivare a parificare la famiglia omosessuale a quella naturale. Vabbè, ho capito, e qualcuno vuole questo. Questa cosa implica una conseguenza criminale. E qual è? Affidare i bambini a una coppia omosessuale. Questa è una conseguenza criminale. E sa perché? Lei si mette nei panni di una bambina che ha i primi cambiamenti e non ha una madre. E allora? A chi lo dice? All'amica. Ma lei parifica il ruolo di una madre ad un'amica? Beh, in alcuni casi ci sono bambine che hanno rapporti molto più stretti con l'amica che con le madri, Ma per piacere. O con i genitori. Ma è così, è la realtà. Questo non è un argomento, mi risponde in un altro modo. Questo non è un argomento. Ma è un argomento alla grandissima, no? Ci sono bambini che crescono tranquillamente, bambine anche femmine che crescono tranquillamente anche nelle famiglie omosessuali. E si può parlare di sesso anche con una coppia. Obblighiamo anni a crescere senza madre, magari, o senza padre. Obbligiamo. Scusi un attimo, ma che c'entra obbligare? Scusi Davide, tra l'altro possono anche una bambina può anche crescere con due donne lesbiche. Oh, Cristo santo, ma è uguale per il padre, cioè, ma è la stessa cosa, lei non capisce. Cioè, i modelli maschile e femminile sono importanti. Cioè, ma lei non mi può uscire da questa argomentazione così. Cioè, è banale. Lo dice all'amica, dai, su, siamo seri. Siamo io volevo dire solo questo. E loro, Davide, siccome non riescono a fare dell'altro, fanno queste cose qua. Va bene, arrivederci. Vediamo se c'è David. Sentiamo, eccoci qui. Allora, oggi Erik Priebke era a passeggio per Roma con badante e bodyguard. Che schifo. Ma perché che schifo? Perché un signore che perché fa un uomo, perché un uomo che ha commesso tali crimini contro l'umanità dovrebbe intanto dovrebbe ringraziare, ha vissuto fino a 100 anni, anche troppo. Anche troppo. Ma io no, ma sei veramente una cosa oscena tu, cioè, no, è un uomo che ha commesso dei crimini contro l'umanità. Allora? Lui ha ucciso delle persone, ha mandato a morte delle persone per un'ideologia, ideologia nazista. E allora? Fatto gasa. Come allora? No, ma dunque gira liberamente per la città con addirittura il bodyguard, il signor Priebke, protetto per anni grazie ai soldi degli altri nazisti nascosti in giro per il mondo. Ma adesso stai facendo la storia di Priebke, avanti. E ora festeggia. E allora festeggia i 100 anni, sì. Sì, festeggia i 100 anni. Con uno con la faccia, non deve anche vergognarsi di andare in giro. Non deve. Vabbè, è con noi, è con noi l'avvocato Carlo Taormina. Buonasera. Buonasera a lei. Come andiamo? È stato l'avvocato Taormina, diciamo, il difensore di Priebke. Lo storico difensore di Priebke, diciamo la verità. Sì, esatto, ha sentito Parenzo, no, le cazzate che ha detto, sì. Beh, insomma, vabbè, ognuno la pensa come crede. Io me ne sono interessato solo e soltanto sul piano strettamente tecnico. Sì. Ma è innocente, stato, secondo lei? Com'è? È innocente Priebke, secondo lei? Qui non è problema di innocenza, è problema che lui era coimputato insieme ad altri 49 nazisti. Sì. I quali 49 nazisti erano stati giudicati negli anni 49-50, dopo la guerra, e tutti, compreso Kappler, che furono assolti. Kappler, Kappler fu condannato soltanto per gli ultimi, soltanto per i due in più che uccise, invece di 333 ne uccise 335, e lui fu condannato all'ergastolo per i due uccisi, per il resto fu riconosciuto la rappresaglia di guerra nei confronti di tutti quanti. Questo per dire cosa? Che Priebke in realtà, secondo lei, era semplicemente un esecutore? Certo, certamente rispetto a Kappler, rispetto ad altri gerarchi nazisti, erano degli esecutori, e se non eseguivano venivano uccisi, come è accaduto per alcuni che non hanno voluto uccidere. Io voglio capire una cosa, fosse per lei Taormina, Priebke sarebbe libero da un pezzo, non sarebbe, cioè non doveva essere condannato, o sbaglio? Ma guardi che fosse per me, come anche per l'altro collega che di difesa, l'avvocato Naso, per me poi, per noi è stato successivamente messo ad eterni arresti domiciliari, perché come sapete, dal momento in cui è passata in giudicato la sentenza, lui è agli arresti. Ma è un bravo uomo, secondo lei, una brava persona, signor Priebke? Ma guardi, io non esprimo valutazioni di questo genere, per me è un nazista e come tale io lo considero, e quindi con tutti i giudizi negativi che sono impliciti in questa qualificazione storicamente. Ma ha pagato accettata. Troppo? Ha pagato troppo o no? No. Non ha pagato troppo, perché uccidere le persone come è stato fatto non è mai troppo. Dico soltanto che sul piano tecnico 49 sono stati assolti e uno è stato condannato. E chi è quello condannato? Il condannato è Priebke. Ah, è Priebke. Parenzo, che c'è? Dimmi, che c'è? Che c'è? No, ma dico, fossi in Priebke, dal punto di vista giuridico capisco, Taormina se ne fa la difesa tecnica, quindi d'accordo, i peggiori criminali hanno diritto alla difesa. A me verrebbe da vomitare difendere un criminale simile, però per capire la stomaco, va bene. Ma stia attento, Parenzo, stia attento Parenzo, perché se poi succede a lei non trova un difensore. Ma io non mi sono macchiato di crimini contro l'umanità. Ma potrebbe succedere. Ma per carità, ma che potrebbe succedere a tutti, anche a me, anche a Cruciani, a tutti. No, scusi, Taormina, ma lei andrà? Taormina, lei andrà alla festa dei 100 anni? Ma guardi, sono stato invitato. Ho dato la mia disponibilità, ma non ho ancora deciso. Ci sono anche dei sacerdoti che partecipano a questa festa, che in qualche modo la benedicono, per cui come dei sacerdoti? Sì, ci sono anche dei sacerdoti. Quando abbiamo fatto la festa dei 90 anni, sì, erano anche rappresentanti del clero. Ma chi è che sarà del clero presente alla festa dei... non lo so, questo glielo dirò quando l'avrò visto, perché sa, la gente oggi... Ma che bisogno c'ha di andare ai cent'anni di... Ma perché uno non può andare a una festa? Non ho capito. Ma scusi, non ho capito. Mi hanno invitato... Ma non è che si va a tutte le cose dove ti invitano, anche a me mi invitano da tante parti, non c'è altro che non mi piace la compagnia. Cento anni sono... Ma vado a giocare con i suoi nipotini, vado a passare una serata con dei nipoti, con i suoi figli. No, io non ho capito, ma io non ho capito, Parenzo, perché si oppone così tanto al fatto che uno possa festeggiare i suoi cent'anni? Non ho capito, qual è il problema? Intanto perché, voglio dire, ha vissuto fin troppo, perché uno così ha... Ma perché? Taormina, dica qualcosa, questo dice ha vissuto fin troppo, cioè... È il Padre Eterno che lo fa vivere, quindi ci sarà pure una ragione. Poi Parenzo si scandalizza perché questo è andato a passeggio per Roma con la badante e col bodyguard. Ma sì, perché lui che ha dato la morte a tante persone, tranquillo, bel bello, senza aver fatto neanche un giorno di galera. Guardi, io sono abbastanza laico, nel senso che, le ripeto, io mi aggancio esclusivamente a quelle che sono state le valutazioni tecniche. Vabbè, ma quello... Posso dire che mi fa schifo. Ma cosa ti fa schifo? Cos'è che ti fa schifo? Un criminale nazista fa una festa di compleanno, ma io non avevo nessun dubbio, ma non ci vado, perché la capisco. Fuori dal suo dalla sua scusi, Taormina, ma secondo lei chi andrà a questa festa, se ci sarà? Ma non è vero, non solo nazisti, ci sono tante altre persone religiose, ha detto lei. Religiosi sicuramente, glielo posso assicurare. Poi naturalmente ci saranno anche dei nostalgici e quant'altro, ma io non ho preoccupazione di sporcarmi con questa gente. Ma è meglio andare alla festa di... Io sarei molto più interessato, molto più curioso di andare alla festa dei cent'anni di Primica piuttosto che a una festa di compleanno, che ne so, di Parenzo, per dire. Oppure al Bunga Bunga, voglio dire. Oppure al Bunga Bunga, perché meglio la festa di Primica che le cene eleganti di Berlusconi. Anche perché quelle sono le occasioni nelle quali, come dire, si fa anche qualche rivocazione di carattere storico che non... Ho detto che mi piace, semplicemente che... Ma passi una serata in famiglia, ma che cazzo va a fare alla festa di compleanno di cent'anni di un criminale nazista, su! Taormina, vabbè, scusi un attimo, però bisogna dire la verità. Ma mai in Sardegna, nella tua villa meravigliosa, ma che ti frega di andare da quel criminale di Pripke, cazzo? Vabbè, ma quello fa una cena dei cent'anni, uno va perché è curioso. Ma è un criminale, ma è curioso. È meglio conoscere i criminali, andare a cena con i criminali che con le persone normali. Ma perché che sei una persona così brutta è meglio conoscere i criminali? Io sto a casa con... A parte che da quella zitta schifosa non ci andrei mai, ma comunque... Guardi che di persone schifose ce ne sono tante, eh? Ma com'è di persona Pripke? Che è una persona gentile, carina, sì, con te? Molto, questo va detto con molta... chiarezza, insomma, una persona gentile, cortese, sì, molto colta. No, è la verità. Capito, Parenzo, gentile, carina, molto colta, beh, beccate questa. Vabbè, gentile, che adesso non voglio dire, ma è come dire, ma anche Mussolini un buongiorno a qualcuno lo avrà detto, ma stiamo parlando... No, gentile è un cazzo, perché uno che massacra e manda a morire... Perché che deve dire di Mussolini, no? Lei, scusi? Non lo so. Ce l'ha con Mussolini, Parenzo. Parenzo pure con Mussolini ce l'ha. Sì. E lei è mussoliniano? Ma come, la radice della nostra storia moderna. Chi è la radice? Ma come, della radice? Come, la radice è un po' esagerato, Taormina, la radice della nostra storia moderna. Signori, basti pensare al welfare che ha inventato Mussolini con i vari istituti di previdenza, IPS, INAIL, INAM, via dicendo, per dire che ha creato le condizioni perché il nostro paese, che in quel periodo certamente era arretrato, ha fatto un salto in avanti. A me non me ne frega che l'abbia fatto Mussolini o chiunque altro. Lei è mussoliniano, su, Taormina. No, non sono mussoliniano, certamente ritengo... Insomma, se non ho preoccupazione a dire che di Mussolini, ho, a parte la solita questione della guerra, ho un buon concetto. Ha un buon concetto, un grande statista è stato. Beh, non c'è ombra di dubbio rispetto a questi pecorai con i quali ci confrontiamo oggi, credo che proprio non ci sia dubbio. Vuole mettere Mussolini con Letta, scusi, mi faccia capire. Ma come me? Mi pare una cosa talmente chiara, limpida. So, personaggi come Rutelli, come Epifani, sta gente qua, ma dove li mette? Vuole mettere il gigante di Mussolini? Ma c'è uno di dubbio. Ma io non capisco, questa sera veramente è sempre numero uno, perché in tre minuti è riuscito a fare l'elogio del nazista, l'elogio del dice carino, dice Sir Creed, che sì, una persona carina e colta. Ma cazzo, ma com'è carina e colta? Mussolini meglio di Letta, di quelli. Allora, in tre minuti ha pisciato sulla storia italiana. Ludovico da Milano. Ma vi saluto io, eh. Aspetta, no, ma che saluti? È quell'altro da Ormina lì. Ma che cazzo? Cioè, ecco, tu prima mi parlavi della violenza dello Stato. Sì. E questa secondo te, Cruciani, che cazzo è? Quale? Quella che ha decantato il tuo illustrissimo ospite. Lo dica lui. L'odio del fascismo. Allora? Ma di che cosa vogliamo parlare ancora? Ma perché? Che c'ha contro te? Non lo so, è quello che ha detto fino adesso. Il grande uomo, il grande statista, le grandi conquiste sociali. E allora? E i milioni di morti ammazzati non li lascia. Taormina. Ma guardi, i milioni di morti ammazzati, naturalmente tutti quanti lo piangiamo, perché è stata una. Certamente, ma si è trattato di un problema storico, sì. Tra l'altro ricorrente, perché la seconda guerra mondiale è venuta dopo la prima, quindi voglio dire, insomma, allora dovremmo discutere anche della prima, dei morti della prima, che forse sono un numero superiore. Dottore, mi scusi, comunque, senta, io riconosco la sua bella voce, non mi frega più lei. No, ma non è lo stesso, è un altro, ma sono parenti, so. È un altro. No, ma per favore. Ma non si può accettare questo tipo di discussione. Ma che vuole lei? Ma che vuole? Mi faccia capire. Io sto facendo un discorso storico. Lei può negare che il ventennio mussoliniano sia stato inutile per il nostro paese? Non lo può negare. Che dice? Io dico quello che dice la storia. Ludovico, che sta dicendo? Che il ventennio è stato inutile, felice. Ludovico. Dite la storia. Ludovico, che dice? Il fatto di aver fatto la bonifica pontina non significa un cazzo. Per me non significa niente, pazienza, che le devo dire? Andiamo al passo con una cosa importante. Questa sera facciamo i mortaretti in Piazza Navona. Ma che dice? Come che dico? Hanno fatto male i partigiani, puttana miseria. Perché? Perché dovevamo fare fuori tutti. I partigiani? Sì. Ecco, invece quelli avrebbero fatto bene. Certamente. Quindi c'è una violenza che è buona e una violenza che è rimasto fascista proprio perché c'è stato un pirla. Io dico, lo chiamavano il migliore, ma che non era il migliore. Che c'è violenza sempre cattiva. Non c'è quella buona e quella cattiva. Lei distingue. La violenza è violenza e basta. Ludovico, che ha fatto apologia? Taormina ha fatto apologia del fascismo? Insomma, vedi un po' te, Cruciani. Che ne so io, traffico. Cosa mi dice che è il grande uomo, il grande statista. Vabbè. Ma il paese distrutto dalla guerra, dove lo lasciamo? Sì, lo dicono anche di Berlusconi, che è un grande statista, non lo posso dire di Mussolini. Francisco Franco, per caso? Vuole fare paragoni, vuole mettere Mussolini... No, non voglio fare paragoni, voglio mettere sullo stesso piano. Come? Anche Hitler in Germania ha fatto delle cose grandiose. Che c'entra questo? Stiamo parlando di Mussolini. Un attimo solo, un attimo, al traffico. La Zanzara. Allora, per chiudere, Parenzo, dobbiamo chiedere al professor Taormina una cosa. Io son sicuro che a questa festa... No, io sono allibito da quello che ha detto il mio amico Taormina, però vabbè. Ormai l'ha detto, che Mussolini... Questo comunista lo dovete cacciare però, perché questo è un comunista. Ma chi, Ludovico? Ma questo qui che parla, ma non lo so chi è. Orgoglioso di essere comunista, la violenza partigiana va bene, la violenza di qualsiasi altro genere non va bene. Ho detto questo, e adesso mi stai mettendo male. Le cose che non ho detto. E lei ha detto che i partigiani dovevano far fuori tutti quanti, hanno sbagliato a non farci fuori. Non ho capito. socialmente utile. Quindi, la violenza del partigiano andava bene, abbia pazienza. No, non è che andava bene. Allora, basta, diciamo insieme, condanniamo insieme la violenza. Questo è un atteggiamento serio, ma non è che possiamo dire che la violenza di Mussolini è cattiva, la violenza dei partigiani è buona. Comunque, Ludovico, lei è andato a menare le mani su in Val di Susa, per cui sulla violenza non parliamo, eh. Comunque, si è... Cazzate, Cruciani, per favore! È andato. Non dire cazzate, io vorrei sapere da te, perché devo accettare una situazione che a me non sta bene e me la impone lo Stato e devo stare Ma che impone lo Stato? Lei vada a manifestare pacificamente e non rompe i coglioni. Tu hai votato, hai diritto di dire che non sei d'accordo sugli F-35, signor Cruciani? Ma che c'entra? Gli F-35 è un'altra cosa, dai. Ma che c'entra? Taormina? Stiamo morendo di fame. Vabbè, stiamo morendo di fame, d'accordo. Io voglio capire una cosa. Certo, non ci saranno omosessuali alla festa di Prip, che su questo non c'è dubbio, eh. Ah, guardi, su questo punto c'è una posizione assolutamente unanime. Tutto quello che è omosessualità è criminale, se no per noi. Per noi chi, scusi? Per noi cittadini ordinari. Dai, tu, Davide. Ma ti credo quel criminale nazista li gasava gli omosessuali, ti credo che non ci sono. Beh. No, questo mai, assolutamente. Comunque, certamente però non ci saranno omosex lì da Prip. Ma adesso abbiamo una legge che tra poco avremo una legge che ci impedisce anche di. Ah, lei va a finire in galera. Lei va a finire. Appunto. Ma infatti sono le ultime battute che faccio. Poi dopo troverò il modo di farle in altri termini, perché questa è sicuramente una limitazione alla libertà di manifestazione del pensiero. Speriamo che non ci blocchino anche la libertà di pensiero in questo va bene paese. Va bene, ciao Carlo, a presto, arrivederci, buonasera a tutti. Ciao. Ludovico, Ludovico, mi hai fatto perdere 2 chili stasera, te li addebito. Perché sto qua a 35 gradi a Milano, fa un caldo pazzesco. Che è colpa mia, scusa, fa caldo. No, che è colpa mia. Scusa, ma che è colpa mia se fa caldo a Milano? Scusa, abbi pazienza. Sto scherzando, dai, abbi pazienza, te, ciao. Ma che c'è? No, guarda, Taormina stasera veramente... Ma che sei nel camion? Cazzo, eh. Ludovico, sei nel camion? No, sono in macchina, io faccio l'autista, Cruciani, le famose auto blu. Ah, nella tua... chi porti? Io porto in giro un po' di tutti, zoccole, politici, mica politici... Brava gente che sembra brava gente, evasori fiscali, quelli che portano i soldi all'estero, di tutto. Parenzo, vai, eh? Sì, è Perino? Sì, vai. Parla di Esposito. Chiedigli un po' di conto. Sì. Perino, sono Parenzo. Chi sei? Perino? Parenzo. Sì. Parenzo, Perino. Sì, e allora? Ma hai sentito queste minacce che ci sono state contro il deputato Esposito del Partito Democratico? Minacce pesantissime, poveretto. Addirittura la stella a 5 punte gli hanno fatto. Allora, noi con la stella a 5 punte non c'entriamo niente. Ho capito, ma bisogna condannare le violenze di chi? Eh? Di chi? Bisogna condannare chi ha minacciato il povero Esposito, che semplicemente ha detto che le forze dell'ordine hanno fatto il loro lavoro lì in Val di Susa. Senti, il povero Esposito si è preoccupato quando hanno minacciato me e mi hanno ammazzato il cane. Ma ho capito, ma che c'entra? Adesso stiamo parlando di un'altra cosa. Ma che c'entra? Allora ti faccio la domanda. L'ha mai fatto? Dai la tua solidarietà a Esposito. È importante che il leader dei notab dica che sono vergognose quelle minacce. Che è successo? Vabbè, che ha chiuso. Vabbè, che devi fare? Non è liberale, però. No. Dario da Como, Dario. Dario. Eccomi, pardon, distratto dalla cucina. Devo tornare un attimo terra a terra, mi scuso perché l'argomentazione l'ha preso in effetti un filone culturale elevato. Ragazzi, io ho in mano il telefono, sì. Mano destra, mano sinistra sulle palle. Perché? Cazzo, Taormina. Yeah. Ma uno l'ha salvato? Ma in che senso, scusi? Dai, cazzo, Taormina, cioè, il corvo che ha ormai soprannominato. Perché il corvo? Ah, uno l'ha salvato, dai, dice. Dai, ragazzi, non facciamo i finti tutti, no, micidiale, vabbè. Io comunque sto così, vabbè. Parlo e con questa posizione. Vabbè, ma non è che lei viene difeso da Taormina, scusi, non è che ha commesso... No, ma appunto, cioè, al mio peggior nemico non consiglierei Taormina a questo punto. Vabbè, queste sono le solite cose. Vabbè, su Taormina, le solite cose che si dicono così, giusto per dirle. Vabbè, adesso lasciamo perdere il bilancio di Taormina, non si può fare adesso, dai. Comunque qualcuno lo fa già il bilancio sulle attività del professore avvocato Carlo Taormina, eh. Io non lo faccio perché sono amico di Taormina. Comunque un po' di colpi giudiziari l'ha presi, gliel'ho detti pure in faccia, eh. Vabbè, allora professor avvocato. No, senta, riprendo un attimo, faccio un volo pindarico. Ma quale volo pindarico? Faccio su Buso. Busi, non Buso, Busi. Ah, Buso. No, Bu. Vabbè. Buso, no, Busi. Senta, spiritoso, su, dai. Forza. Faccio lo spiritoso. Devo confermare una cosa che ha detto per esperienza personale. Al di là poi delle fregnacce, perché si dimostra veramente il frocio tra i froci, cioè vede solo quello, lui parla solo di quello, cazzo, come chiamare la mamma e farle parlare del bambino, prende quel filone, non si ferma più. Vabbè, ma io non ho capito, dove vuole arrivare lei? No, voglio arrivare che devo confermare in effetti una cosa che ha detto. Che cosa? Il sesso in età, diciamo, adulta, che matura, diciamo matura, ecco. Sì, sì. Ma perché ragazzi, queste partono con un vantaggio clamoroso, sui 70-80. Che vantaggio hanno? Cazzo. Dario, me lo dica lei, che vantaggio hanno le donne nei settantenni? Pompino senza dentiera, incredibile. Fantascienza, ma provate, ragazzi, provate. Io ho avuto l'esperienza e ammetto che insomma, è qualcosa che la giovinastra soda non ti potrà mai dare. Parenzo, hai capito? È la verità. Che ormai queste lezioni di vita dei radioascoltatori, capisci, fanno parte della storia. Bah, Mirko da Monza, vabbè, ma questo ormai stasera Parenzo è andato, non c'è sì, non c'è buonasera, niente. Io Mirko, volevo dire innanzitutto una cosa. Secondo me non è il caso di dire che un personaggio che dice che a casa gli è arrivata una lettera a 5 punti abbia i coglioni solo perché ha ammesso che i violenti vadano perseguitati. Premesso, nulla di straordinario, non vedo perché bisogna farne un martire. Ma chi? Come chi? Il senatore, dice lei? Certo. Ha ricevuto una lettera di minaccia di morte con la stella a 5 punti sopra. Non sappiamo neanche se è vero, Cruciani. Sì, non sappiamo se è vero, adesso su, dai. E chi è che ha confermato questa cosa? Tutti, la polizia, tutti. Mica, ma per carità, mica se la sarà fatta da sola, no? Ah beh, a me sembra che sia rimasto da solo più che se la sia fatta da solo. Sì. Ma perché non esprime solidarietà nei confronti di queste cose? Invece in suo cuore, cioè, vuole passare dalla parte del povero Cristo, ecco. Vabbè, dobbiamo chiudere. Ludovico, se n'è andato? A domani 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.